Che implicazioni ci sono nel contrarre matrimonio con un musulmano? Può darsi che una vostra cara amica, uso il femminile amica perché la maggioranza dei casi riguarda le donne, o una parente stia prendendo in considerazione la possibilità di sposarsi con un musulmano. Che cosa sarebbe bene dirle in questo caso? Può darsi che lei abbia già deciso di sposarlo. Lui è così carino e gentile, un vero gentiluomo è una persona colta. Se ne sentono tante di storie dell'orrore su questi matrimoni misti, ma di sicuro ci saranno anche delle unioni ben riuscite. È importante comunque che lei comprenda bene ciò che sta per fare. Dovrebbe prima di tutto tenere a mente che, volente o nolente, tutti i matrimoni con i musulmani sono condizionati dalla legge islamica, qualunque sia il paese di residenza. Bisogna ammetterlo, l'Islam non è soltanto una fede, è un modo di vivere governato dalla legge islamica. Il musulmano è obbligato a vivere secondo i valori e i precetti di questa legge, ovunque risieda. Credetemi, la legislazione concernente il matrimonio e la famiglia è molto ampia e in base ai parametri occidentali penalizza molto la donna, soprattutto se non è musulmana. Posso solo citare alcune informazioni basilari. La legge islamica considera la donna inferiore all'uomo. È sempre soggetta a un responsabile di sesso maschile, sia esso il padre, il fratello o il marito. La donna vale la metà di un uomo quando si tratta di soldi dati per comprare il silenzio, l'eredità o la sua testimonianza in tribunale. Un uomo musulmano può avere fino a 4 mogli. Può sposare una persona non musulmana, a patto che appartenga al popolo del libro, vale a dire cristiana o ebrea, cosa che invece non è possibile per la donna musulmana. I figli nati da un matrimonio misto di questo tipo appartengono al marito e devono essere allevati nella fede musulmana. Ecco perché una donna musulmana non può sposare un non musulmano. In sostanza, la donna non ha gli stessi diritti del marito. Noterete che ho focalizzato l'attenzione sul matrimonio in termini della legge islamica, piuttosto che sulle usanze. Le usanze possono variare da paese a paese, ma una cosa è certa: qualsiasi musulmano, cresciuto in una società musulmana, si sentirà più o meno obbligato a contrarre matrimonio in conformità alla legge islamica. Questo è un elemento fondamentale che chiunque intenda sposare un musulmano farebbe bene a tenere a mente. Ecco alcuni suggerimenti pratici che possono essere utili per aiutare la persona a far chiarezza. Prima di tutto dovrebbe chiedere al pretendente se ha già una moglie al suo paese o da qualche altra parte. A volte la moglie viene lasciata al paese per varie ragioni e quindi l'uomo ne vuole avere un'altra in questo paese per avere compagnia. Dovrebbe anche cercare di sapere che cosa si aspetta da lei. Non bisogna ipotizzare nulla. Un collega consiglia di chiedere: che ne sarà dei nostri figli? Devono essere allevati nella fede musulmana? Sarò libera di portarmeli in una chiesa? Potranno decidere per conto loro? A questo riguardo è essenziale che, prima del matrimonio, lei si rechi nel paese del pretendente per conoscere in prima persona la famiglia. Dovrebbe sapere che per tradizione la famiglia musulmana, soprattutto la suocera, esercita un notevole controllo sociale sulla moglie del figlio. Infine, se arriva a sposarsi, sarà meglio che si adegui allo stile di vita musulmano. Non dovrebbe pensare che una volta sposata potrà cambiare le cose o cambiare lui. Non ci riuscirà. Andrà incontro a contrasti e litigi. Abbiamo testimonianze di donne italiane evangeliche che hanno disubbidito al comando di Dio e si sono messi con gli infedeli, i musulmani sono infedeli. Punto, si è pentita, ma le conseguenze sono spesso che vengono messe incinte finché hanno troppi figli e il ménage familiare è tale che poi sono loro stesse a decidere di non andare più in chiesa. Inoltre danno alla luce bambini musulmani, automaticamente tali come la legge islamica comanda. E i musulmani si rallegrano di questo. Sono i figli d'Italia, i primi musulmani italiani naturali. Ecco l'invasione. E nel caso di un eventuale divorzio, dovrebbe sapere che il paese del marito, trattandosi di un paese islamico, non riconoscerà le sue rivendicazioni sui figli a meno che lei non sia musulmana. Il divorzio ampliamento Nuovo Testamento PR Antico Testamento IC Antico Testamento O. Secondo il Corano, la dita il fiqh, giurisprudenza islamica, il divorzio è prerogativa assoluta da parte del marito, mentre la donna lo subisce. Non soltanto ciò, i figli diventano proprietà del marito, il quale può esercitare la patria potestà senza opposizione vera e propria. Secondo la Bibbia, il divorzio non rientra nella volontà perfetta di Dio, anche se era concesso. L'Eterno dice: se un uomo ripudia la sua moglie e questa se ne va da lui e si marita un altro, quell'uomo torna. Il paese stesso non ne sarebbe egli tutto profanato? E tu, che ti sei prostituita con molti amanti, ritorneresti a me, dice l'Eterno. Geremia 3, 1. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per una ragione di fornicazione la fa essere adultera, e chiunque sposa colei ch è mandata via commette adulterio. Matteo 5, 32. Sura 33, 37 Zaid. E la nuora copiare dalla Bibbia e il Corano. La circoncisione femminile. La circoncisione femminile è la mutilazione dei genitali femminili, ovvero nella rimozione totale o parziale del clitoride, clitoridectomia, generalmente senza anestetico. Si tratta di una pratica molto diffusa in 40 nazioni, soprattutto nei paesi musulmani del Medio Oriente e dell'Africa, tra cui l'Egitto e il Sudan. Per esempio, si valuta che il 70-80% delle donne egiziane abbiano subito qualche forma di circoncisione. Nel gennaio del 1995 è stato rilevato che in Egitto ben 3.600 ragazze siano state circoncise ogni giorno. Infatti, in Egitto la circoncisione è legale purché sia effettuata da un medico. Ma perché questa pratica tanto crudele? I tradizionalisti ritengono che la circoncisione sia essenziale, proteggere la donna e salvaguardarne la purezza. Viene perciò considerata benefica per il genere femminile e utile a salvaguardare l'onore della famiglia. Praticamente il ragionamento è questo. Se una donna non può trovare piacere nel sesso, probabilmente non commetterà fornicazione o adulterio. Nella Sharia la circoncisione è considerata un'elargizione di onore alla donna. Però, da tempo gli esperti medici hanno dimostrato che la pratica è dannosa perché provoca infezioni, malattie e in alcuni casi la morte. In più bisogna considerare gli effetti psicologici che le donne subiscono, per non parlare dell'intenso dolore fisico provocato dall'operazione stessa. La dottoressa Nawa El Sadawi, psicologa e scrittrice femminista egiziana, ricorda il dolore della sua circoncisione e dice che l'implicazione psicologica più significativa della circoncisione è l'oppressione delle donne. Nel 1994 la psichiatra Aida Seifeldaula del New Women's Center ha parlato a un gruppo di attivisti per i diritti della donna al Cairo e, facendo riferimento a un'indagine effettuata fra 1.000 donne, ha propugnato apertamente l'eliminazione del kitan, circoncisione femminile. L'indagine aveva dimostrato i rischi medici della circoncisione femminile praticata dalle donne più povere, che non possono permettersi un controllo medico professionale, benché la pratica non sia prescritta dal Corano, infatti derivi dai tempi preislamici, essa è stata sanzionata dal Gran Sheikh dell'Università Al-Azhar in Egitto tramite un suo decreto fatwa del 1981. Egli si è riferito alla legge islamica tradizionale che considera obbligatoria la circoncisione dei maschi e raccomandabile quella delle femmine. Durante il regime del presidente Nasser C è stata una proposta di legge che proibiva la circoncisione femminile, ma la proposta non è mai stata ratificata. In Occidente la circoncisione femminile è spesso praticata da gente proveniente dal Corno d'Africa ed è considerata più un rito di iniziazione che una prescrizione religiosa. Concludiamo con una citazione dalla tradizione islamica a sostegno dell'infibulazione come prescrizione religiosa. Fiqh 1.21a, giurisprudenza islamica, sulla circoncisione delle donne. Per le donne consiste nel rimuovere chirurgicamente la parte esterna del clitoride. Gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede gli uni rispetto alle altre e le donne virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più. L'apostolo di Allah disse: il cattivo auspicio sta nella donna, nella casa e nel cavallo. Una volta, l'apostolo di Allah andò a Musalla per offrire la preghiera, o Id al-Adha, o la preghiera al-Fitr. Poi sulla via, incontrò le donne e disse: «O donne, date l'elemosina, perché ho visto che la maggior parte degli abitanti dell'inferno di...» Lui rispose: «Voi bestemmiate frequentemente e siete ingrati ai vostri mariti. Non ho visto nessuno più scarsamente dotato di intelligenza e di religione di voi. Un uomo cauto e sensibile potrebbe essere sviato da qualcuna di voi». Le donne chiesero: «O apostolo di Allah, di cosa manchiamo nella nostra intelligenza e religione?» Egli disse: «Non è forse vero che la testimonianza di due donne equivalga a quella di un solo uomo?» Egli disse: «Ecco il difetto nella sua intelligenza. Non è vero che una donna non può neanche pregare né digiunare durante il feintero?» Caro osservò: «O donne, dovreste dare la carità e chiedere tanto perdono, già che vi ho visto ammassate». Fra le altre, una donna saggia disse: «Perché, messaggero di Allah, saremmo ammassate nell'inferno?» Il santo profeta, in merito a questa domanda, osservò: «Bestemmiate troppo e siete ingrati ai vostri sposi. Vi ho visto soltanto venire meno al senso logico e non rispettare la religione, e, allo stesso tempo, rubare la saggezza del saggio, eccetto». La donna puntualizzò: «Cosa ci è di sbagliato nel nostro senso logico e nella nostra religione?» Egli, il santo profeta, rispose: «La vostra mancanza di senso logico è confermata dall'evidenza che due donne equivalgano ad un uomo, dal fatto che trascorriate delle notti e dei giorni in cui non offrite le vostre preghiere, che nel mese di Ramadan durante il giorno non osservate il digiuno, il che vuol dire non rispettare la religione». Lui disse: «Dalle in sposa a me?» Il profeta disse: «Dalle qualcosa, anche un anello di ferro». Il profeta gli chiese: «Quanto conosci del Corano a memoria?» Il profeta disse: «Te la do in sposa per quello che conosci del Corano». Ho visto l'apostolo di Allah e i soli convertiti all'Islam con lui erano cinque schiavi, due donne e Abu Bakr. Il profeta disse: «Non è vero che la testimonianza di una donna equivalga alla metà di quella di un uomo?» Lui disse: «Il perché sta nella scarsezza di cervello della donna». Sahih al-Bukhari, Hadith 1400. Senza dubbio ho visto l'apostolo di Allah pregare mentre io stavo fra lui e il Qibla, e quando voleva prostrarsi spinse le mie gambe ed io le ho tirate indietro. Il profeta di solito accettava dalle donne il voto di fedeltà a parole solo dopo aver recitato il seguente verso sacro, 60.12: «Che esse non uniscano alcuna cosa in adorazione con Allah, e la mano dell'apostolo di Allah non toccò la mano di nessuna donna eccetto per la mano di quella donna che la sua mano destra teneva, cioè sue prigioniere o schiave». Il messaggero di Allah, che la pace sia con lui, disse: «Le donne in periodo mestruale e le yunubi non dovrebbero recitare». Dopo le donne, niente fu più caro al messaggero di Allah, che la pace sia con lui, che i cavalli. Sono andato ad Al-Firah ed ho visto le persone prostrarsi davanti al proprio satrapo. Così dissi: «L'apostolo di Allah, che la pace sia con lui, ha più diritto di ricevere prostrazioni dinanzi a lui». Quando venni al profeta, che la pace sia con lui, dissi: «Sono andato ad Al-Firah ad avere persone prostrate innanzi a te». Lui disse: «Dimmi se ti trovassi a passare vicino. Se mai dovessi comandare qualcuno di prostrarsi, comanderei le donne a prostrarsi innanzi ai loro mariti, a motivo del diritto speciale datogli da Allah». Le cose che mi furono menzionate nella preghiera annuale, e quelle furono: un cane, un asino ed una donna. Io dissi: «Tu ci hai paragonate ad asini e cani. O Allah, ho visto il profeta pregare mentre io giacevo nel mio letto fra lui ed il Qibla. Qualora avessi bisogno di qualcosa, preferii non sedermi e disturbare il profeta. Così scivolavo via dai suoi piedi». Si deve osservare da queste letture che, sebbene l'Islam cerchi di convincere il mondo del grande rispetto che ha verso la donna, di fatto nega l'uguaglianza fra l'uomo e la donna. Ad esempio, il marito può prendere l'iniziativa sulla donna per il proprio soddisfacimento sessuale, ma la cosa non è reciproca. La donna, come cita il Corano, è come un campo dal quale trarre il proprio piacere. È anche prevista, a discrezione del marito, la possibilità di recludere la propria moglie se lei dovesse opporsi al marito fino a... Nella predicazione islamica la donna sembra rivestire un ruolo di grande rispetto e dignità, tuttavia dalle letture proposte emergono alcune contraddizioni che mettono in discussione il principio stesso di uguaglianza tra uomo e donna. Per esempio, sul piano di una buona intesa sessuale sembrano mancare principi elementari come la condivisione e la comunione di un rapporto che va oltre la mera sfera fisica e che è capace di raggiungere una sintonia più universale. Solo l'uomo può assumere l'iniziativa nel rapporto, ciò non è consentito alla moglie. La donna, come cita il Corano, è come un campo dal quale trarre il proprio soddisfacimento. Inoltre all'uomo è concesso, a sua discrezione, di recludere la propria moglie, se questa si oppone al marito, fino a picchiarla se necessario. Sura 34. La donna nell'Islam, secondo gli scritti islamici. Quando si parla di matrimonio nel mondo islamico, si ha a che fare con alcune leggi risalenti addirittura al VI secolo d.C. Per esempio, un matrimonio è possibile con una bambina già a partire dai 9 anni, se questa ha già avuto la prima mestruazione, poiché questo la rende adulta a tutti gli effetti secondo la legge. Maometto stesso sposò una bambina di soli 9 anni, Aisha, e visse con lei in un rapporto matrimoniale, normale, a livello sessuale quando lui aveva circa 53 anni. Ecco alcune citazioni per convalidare i fatti enunciati. Sunan di Abu Dawud, Hadith 4917, narrato da Aisha, Ummul Mu'minin. Quando arrivammo a Medina, le donne vennero da me mentre stavo giocando sull'altalena e i miei capelli erano su fino alle mie orecchie. Mi portarono via, mi prepararono, mi abbellirono. In seguito mi portarono dall'apostolo di Allah, la pace sia su di lui, e lui cominciò a convivere con me quando avevo 9 anni. Sahih al-Bukhari, Hadith 5234, narrato da Aisha. Il profeta, quando aveva 50 anni, mi fidanzò quando ero una bambina di 6 anni. Andammo a Medina e stavamo nella casa di Bani al-Harith bin Khazraj. Poi mi ammalai e i miei capelli cominciarono a cadere, ma in seguito crebbero di nuovo. Mia madre Umm Ruman venne da me mentre stavo giocando su una altalena con alcune mie amiche. Mi chiamò e andai da lei, senza sapere cosa voleva da me. Mi prese per la mano e mi lasciò in piedi alla porta della casa. Rimasi senza fiato, e quando il mio respiro tornò a normale, lei prese un po' di acqua e la strofinò sulla mia faccia e la mia testa. Poi mi portò dentro la casa. Lì dentro vidi alcune donne ansari che dissero «Auguri e la benedizione di Allah e buona fortuna». Allora mia madre mi lasciò da loro ed essi mi prepararono per il matrimonio. Qualche anno dopo, l'apostolo di Allah venne da me di mattina e mia madre mi consegnò a lui, e in quel momento ero una ragazza di 9 anni d'età. Sahih al-Bukhari, Hadith 5166, narrato da Aisha. Non sentii gelosia verso le mogli del profeta, ma certamente verso Khadija, benché io non l'abbia mai vista. Il profeta, però, aveva l'abitudine di menzionarla molto spesso, e ogni volta che scannava una pecora, la tagliava a pezzi per mandare quei pezzi alle amiche di Khadija. Quando a volte gli dicevo «Tu agisci come se non ci fosse nessuna donna in terra tranne Khadija», lui rispondeva «Khadija era così e così, e mi ha dato figli». Ecco qui sotto alcuni testi sull'atteggiamento che l'uomo deve avere nei confronti della donna. Sahih al-Bukhari, Hadith 2386, narrato da Aisha. Quando il profeta ebbe la notizia della morte di Ibn Haritha, Ja'far e Ibn Rawaha, si mise a sedere con un volto rattristato. Lo guardai attraverso la porta che era socchiusa. Un uomo entrò e gli parlò del pianto delle donne di Ja'far. Il profeta gli ordinò di metterle a tacere. L'uomo se ne andò e tornò dicendo di averlo ordinato, ma che le donne non l'avevano ascoltato. Il profeta, la pace sia su di lui, disse, proibiscilo. Perciò l'uomo se ne andò nuovamente e tornò per la terza volta dicendo, o apostolo di Allah, per Allah, non ci hanno ascoltato affatto. L'apostolo di Allah gli ordinò di andare e di mettere polvere nelle loro bocche. E io, o tapala Aisha, gli dissi, Allah attacchi il tuo naso alla polvere, cioè ti umili, non soltanto non hai persuaso le donne ad ubbidire all'ordine dell'apostolo di Allah, ma non hai nemmeno liberato l'apostolo di Allah dai fastidi. Sahih Muslim, Hadith 3432, narrato da Abu Sa'id al-Khudri. Durante la battaglia di Hunain, il messaggero di Allah, la pace sia su di lui, mandò un esercito ad Autas, incontrò i nemici e combatté con loro. Dopo averli vinti e fatto di loro prigionieri di guerra, i compagni del messaggero di Allah, la pace sia su di lui, sembrarono essere restii ad avere rapporti con le donne prese prigioniere perché i loro mariti erano politeisti. Allora, Allah l'Altissimo decretò in merito che «e le donne già sposate, tranne quelle che la tua mano destra possiede», il versetto 24, cioè era legittimo prenderle dopo che il loro periodo di idda fosse finito. Sahih al-Bukhari Hadith 7.70 narrato da Abdurrahman bin Yazid e Majami bin Yazid. Lo stesso hadith di sopra. Un uomo di nome Fidam maritò una sua figlia a qualcuno senza il consenso di lei. Se temi di non essere capace di trattare giustamente le orfanelle, allora sposati con altre donne secondo la tua scelta. 4.3. E se qualcuno dice al guardiano delle donne, marita questa o quella a me, e il guardiano tace, o gli dice che cosa hai da dare, e l'altro dice questo o quello, mahar, o non dice niente, e se poi il guardiano dice te la ho maritata, allora il matrimonio è valido e legale. Questa narrazione è stata raccontata da Sahl sull'autorità del profeta. Sahih al-Bukhari Hadith 7.13 narrato da Abdullah. Eravamo abituati a partecipare alle guerre sante guidate dall'apostolo di Allah e non avevamo niente, cioè nessuna donna, con noi. Perciò dicemmo, dobbiamo castrarci? Egli ce lo vietò, e poi ci permise di sposare donne a contratto temporale. E disse recitando, o voi che credete, non dichiarare illegittime le buone cose che Allah ha reso legittime per voi, ma non commettete trasgressioni. 5.87. Sahih al-Bukhari, Hadith 6139, narrato da Abdullah. Eravamo abituati a partecipare alle guerre sante condotte dal profeta, e non avevamo donne, mogli con noi. Perciò dicemmo al profeta, dobbiamo castrarci. Ma il profeta ci proibì di farlo, e in seguito ci permise di sposare una donna, temporalmente, dandole un vestito. E poi disse recitando, o voi che credete, non dichiarare illegittime le buone cose che Allah ha reso legittime per voi. Sahih al-Bukhari Hadith 9.8 Unoras kimita lel fahala kellini, mel fahala kara kelvisi ribda. Narrato da Ibn Abbas. Riguardo al versetto del Corano, o voi che credete, vi è proibito ereditare donne contro la loro volontà. 4.19 L'abitudine preislamica era che i parenti di un morto avevano il diritto di ereditare la moglie del defunto. Se uno fra loro la voleva poteva sposarla, oppure potevano maritarla a qualcun altro, oppure impedire che si risposasse se volevano così. Infatti, i parenti del marito avevano più diritto di disporre di lei che non i parenti di lei stessa. Perciò il sopracitato versetto fu rivelato riguardo a questa questione. Sahih al-Bukhari Hadith 7.33, narrato da Usama bin Zaid. Il profeta Tuas al-Dalahi la fina disse, «Dietro di me non ho lasciato nessuna afflizione più dannosa all'uomo che le donne». Sahih Muslim Hadith 6604, narrato da Usama ibn Zaid ibn Harith e Sahid ibn Zaid ibn Aymar ibn Naufal. L'apostolo di Allah, la pace sia su di lui, disse, non ho lasciato dietro di me nessun subbuglio per la gente se non il danno fatto all'uomo dalle donne. Sahih al-Bukhari Hadith 7.30 narrato da Abdullah bin Umar. Sunan di Abu Dawud Hadith 4088 narrato da Aisha Ummul Mu'minin. Ibn Abu Mulaika racconta che, quando qualcuno stava avvertendo Aisha che una donna aveva sandali ai piedi, lei rispose, al termine di Hadith 5145 narrato da Abu Sa'id al-Khudri. Il messaggero di Allah, la pace sia su di lui, si alzò in mezzo a noi per pronunciare un discorso dopo la preghiera del pomeriggio e non omise nulla di tutto ciò che sarebbe successo nel giorno della risurrezione senza menzionarlo. Alcuni ricordarono le sue parole, altri le dimenticarono. Durante il suo sermone disse, «Il mondo è dolce e verdeggiante e Allah vi ha messo lì dentro come successori, perciò considerate come agite». State in guardia contro il mondo e state in guardia contro le donne, tramandato da Tirmidhi. Contraddizioni interne. In altre citazioni dei testi islamici si possono notare consigli più miti nei confronti delle donne, che sono in aperta contraddizione con i testi esposti sopra. Sunan di Abu Dawud Hadith 2068 narrato da Sabura ibn Mabad al-Juhani. L'apostolo di Allah, la pace sia su di lui, ha proibito il matrimonio temporale con le donne. Sahih al-Bukhari Hadith 5148 narrato da Abu Sa'id al-Khudri. Alcuni, cioè i giudei di Bani bin Quraiza, si accordarono di accettare la sentenza. Arrivò cavalcando un asino, e mentre si avvicinò alla moschea il profeta disse: «Alzatevi per il migliore fra voi». Oppure: «Alzatevi per il vostro capo». Poi il profeta disse: «O Sa'd, questa gente si è accordata di accettare la tua sentenza». Sa'd rispose: «Giudico che i loro guerrieri siano uccisi e che i loro figli e le loro mogli siano presi come prigionieri di guerra». Il profeta Telaspidian disse: «Il tuo giudizio è simile a quello di Allah o al giudizio del re». Sahih al-Bukhari Hadith 2.23, narrato da Ibn Omar. Una fra le mogli di Omar, bin al-Khattab, era abituata a offrire le preghiere del Fajr e dell'Aisha nella congregazione in moschea. Gli chiesero perché era venuta a pregare pur sapendo che ciò a Umar non piaceva, e lui aveva un gran gaira. Stima di sé. Lei rispose: «Che cosa gli impedisce di farmi smettere di fare così?» L'altro rispose: «Ciò che gli impedisce è la dichiarazione dell'apostolo di Allah, la pace sia su di lui: non impedite alle schiave di Allah di andare alle moschee di Allah». Sahih al-Bukhari Hadith 9.79 narrato da Aisha. Chiesi al profeta: «O apostolo di Allah, bisogna chiedere alle donne se vadano d'accordo con il loro matrimonio?» Egli rispose: «Sì». Gli dissi: «Una vergine si intimidisce e non dice niente se glielo chiedono». Egli rispose: «Il suo silenzio equivale al suo consenso». Al Muwatta Hadith 2.90, il ghusl per una maggiore impurità rituale. Yahya mi riferì da Malik, da Nafi, che le schiave di Abdullah ibn Umar erano abituate a lavare i suoi piedi e a portargli una stuoia di foglie di palma mentre erano in mestruazione. A Malik fu chiesto se un uomo con moglie schiave possa avere rapporti con tutte loro prima di fare il ghusl. Lui disse: «Non c'è, è male quando un uomo ha rapporti con due delle sue schiave prima di compiere il ghusl. Però è disapprovato andare a una donna libera nel giorno di un'altra. Quando qualcuno è junub, nonché che, è male fare l'amore prima con una schiava e poi con un'altra». Malik fu interrogato riguardo a un uomo che era junub. Gli misero acqua davanti per fare il ghusl. Distrattamente mise il dito dentro per scoprire se l'acqua fosse calda o fredda. Malik disse: «Se le sue dita non sono sporcate da sporcizie, ritengo che quel fatto non abbia reso impura l'acqua». Al-Tirmidhi Hadith 276 narrato da Amr ibn al-Awas al-Jushami. Amr ascoltò il profeta, la pace sia su di lui, durante il suo discorso da Dio la sera prima del suo ultimo pellegrinaggio. Dopo aver glorificato e lodato Allah, egli mise in guardia i suoi seguaci: «Ascoltate! Trattate le donne con gentilezza. Sono come prigioniere nelle vostre mani. Oltre a questo non dovete nulla da loro. Se si rendono colpevoli di una grossa scostumatezza, potete rimuoverle dai vostri letti e picchiarle, ma non castigatele con punizioni severe. Se poi vi ubbidiscono, non ricorrete a nessun altro procedimento contro di loro. Ascoltate, voi avete i vostri diritti sulle vostre mogli ed esse hanno i loro diritti su voi. Il vostro diritto è che non devono permettere a nessuno di calpestare il vostro letto e di non permettere a chi vi dispiace di entrare in casa. Il loro diritto è che dovete trattarle bene riguardo al cibo e all'abbigliamento». Tramandato da Tirmidhi. Al-Tirmidhi Hadith 3119 narrato da Jabir ibn Abdullah. Il profeta, la pace sia su lui, disse: «Non visitate le donne mentre i loro mariti non sono a casa, perché il diavolo circola in voi come il vostro sangue». Gli fu chiesto se questo valesse anche per lui, ed egli rispose: «Anche per me, ma Allah mi ha aiutato contro di lui affinché fosse al sicuro». Tirmidhi l'ha tramandato. La posizione delle femmine nel Corano è sempre stata inferiore a quella dei maschi. Sura 2, 223, 411, 34, 176. All'inferno, più donne che uomini. Che cos è S-A-H-I-H-L, B-U-K-H-I-R-I? Sahih al-Bukhari è una collezione di frasi e opere compiute del profeta dell'Islam Maometto, anche conosciuta anche come Sunna. Bukhari visse un paio di secoli dopo la morte di Maometto, avvenuta nel 632 d.C., e lavorò tutta la vita per raccogliere queste tradizioni orali perpetuatesi di generazione in generazione fra gli stessi arabi musulmani di quell'epoca. La collezione di Bukhari è stimata come la più autorevole fra le altre tradizioni islamiche in circolazione. Leggiamo quindi con questa ottica quanto segue. Sahih al-Bukhari, Hadith 2541, narrato da Abu Sa'id al-Khudri. Nel Id ul-Fitro, Id ul-Adha, apostolo di Allah, pivole UH, andò a Musalla. Dopo aver finito di pregare, fece il sermone e ordinò alla gente di fare la carità. Egli disse: «O gente, fate la carità!» Poi si diresse verso le donne e disse: «O donne, fate la carità, perché ho visto che la maggior parte dei guerrieri dell'inferno di fuoco siete voi, donne!» Le donne chiesero: «O apostolo di Allah, qual è il motivo?» Egli replicò: «O donne! Voi bestemmiate frequentemente e siete ingrate ai vostri mariti. Non ho visto nessuno più scarsamente dotato di intelligenza e di religione di voi. O donne, un uomo cauto e sensibile potrebbe essere sviato da qualcuna di voi». E dopo se ne andò. Sahih al-Bukhari, Hadith 7126, narrato da Imran bin Hussein. Il profeta disse: «Ho guardato verso il paradiso ed ho visto che la maggior parte dei suoi abitanti erano i poveri, ed ho guardato verso l'inferno di fuoco ed ho visto che la maggior parte dei suoi abitanti erano donne». Sahih al-Bukhari disse: «Stetti dinanzi il cancello d'entrata al paradiso e vidi che la maggior parte della gente che era entrata era povera gente, mentre ai ricchi era vietato di entrare insieme ai poveri perché attendevano i conti. Ed io stetti dinanzi il cancello d'entrata al fuoco e scoprì che la maggior parte della gente che vi entrava erano donne». Sahih al-Bukhari, Hadith 8554, narrato da Imran. Il profeta disse: «Rivolsi lo sguardo verso il paradiso e vidi che una gran parte della gente era gente povera, e rivolsi lo sguardo verso il fuoco e scoprì che v'erano in gran parte donne». Sahih al-Bukhari, Hadith 2161. Narrato da Abdullah bin Abbas. La gente dice: «Ti abbiamo visto parlare di qualcosa dal luogo da cui provieni e dopo ti abbiamo visto ritirare». Il profeta replicò: «Ho visto il paradiso ed ho teso le mani verso un mucchio di frutta e l'ho preso e voi ne avreste mangiato per quanto sarebbe durato il mondo. Ho anche visto l'inferno di fuoco e non ho mai visto qualcosa di così orribile. Vidi che gran parte degli abitanti erano donne». La gente chiese: «O apostolo di Allah, perché è così?» Il profeta rispose: «Per la loro ingratitudine». Gli fu chiesto se fossero ingrate ad Allah. Il profeta rispose: «Tertavigenen disse: sono ingrate verso i loro compagni di vita, mariti, ed ingrate verso le buone azioni. Se sei benevolente ad una di loro durante la vita, e se lei vede qualcosa di sgradevole in te, dirà: non ho ricevute del bene da parte tua». Sahih al-Bukhari, Hadith 8456. Narrato da Imran bin Hussein. Il profeta disse: «Guardai verso il paradiso e trovai la maggior parte dei suoi guerrieri era povera gente, e guardai, nell'inferno di fuoco trovai che la maggioranza dei suoi abitanti erano donne». Sahih Muslim, Hadith 6597. Narrato da Abdullah ibn Abbas. L'apostolo di Allah, che la pace sia con lui, disse: «Ebbi l'occasione di vedere il paradiso e trovai che la maggior parte della gente era povera. Guardai anche nel fuoco e lì trovai che la maggioranza era costituita da donne». Al-Tirmidhi, Hadith 1808, narrato da Zainab, la moglie di Abdullah. Il messaggero di Allah, che la pace sia con lui, gli ammaestrò dicendo: «Voi donne dovreste dare le offerte anche se si tratta dei vostri gioielli, perché nel giorno della resurrezione voi costituirete la maggior parte degli abitanti dell'inferno». Il problema del Corano con Adamo: monoteismo o politeismo? I musulmani rimproverano i cristiani di pregare Gesù, che per loro sarebbe soltanto un uomo. Quando qualche amico musulmano fa questa affermazione, accantoniamo per un momento la polemica e trasportiamo la discussione sul soggetto di Adamo. Prosternarsi davanti ad Adamo? Maometto dice che, quando Adamo fu creato, Allah ordinò a tutti gli angeli di inchinarsi ad adorare questa creatura. Tutti gli angeli ubbidirono, escluso Satana, che rifiutò rispondendo: «Io sono meglio di lui». Sura 15, 28-33. Per il suo fermo rifiuto, Allah lo maledì e lo destinò all'inferno. Allah disse: «O Iblis, Satana, cosa ti impedisce di prosternarti davanti a ciò che ho creato con le mie mani? Ti gonfi d'orgoglio? Ti ritieni forse uno dei più elevati?» Sura 38, 7-5. È difficile credere che Dio avesse preteso di vedere adorare la creatura piuttosto che il creatore. Chiedete loro di dare spiegazioni su questo brano. Dalla mia esperienza posso dire che ogni qualvolta si pone loro questa domanda, essi rimangono molto sconcertati. Loro stessi sono paladini della verità che solo Dio deve essere adorato, se no si tratta di politeismo. Sta dunque il Corano insegnando il politeismo, cioè quella posizione che essi tanto e giustamente odiano? Invece gli altri angeli avrebbero invece ubbidito ad Allah e si inchinarono per adorare la creatura, Adamo. E quando dicemmo agli angeli: «Prosternatevi ad Adamo», tutti si prosternarono eccetto Iblis, che rifiutò per orgoglio e fu tra i miscredenti. Sura 2 e 34. Ci stupiamo nell'apprendere tale cosa. Che male avrebbe fatto Satana rifiutandosi di adorare una creatura? Forse, nel dire ciò, Maometto si è contraddetto. Cosa significa questa sura, alla luce di quanto riportato? Che gli angeli dovrebbero adorare gli uomini. Cioè che anche noi siamo oggetto di culto per gli angeli? Come tutti sappiamo, musulmani compresi? Adamo disubbidì a Dio e quindi ancor meno meritava l'adorazione degli angeli. E, forse, i musulmani starebbero oggi adorando Adamo per non finire castigati per l'eternità come è successo a Satana? Anche se essi, come sappiamo, non adorano Adamo, rimane che comunque il loro libro sacro, il Corano, riporta qualcosa di oscuro. Da dove Maometto ha originato questa rivelazione? Da Allah? La Bibbia non contiene un tale messaggio. Anzi, condanna questa pratica dalla Genesi fino all'Apocalisse. I concittadini di Maometto, quando egli cercava di ingraziarsi e di ristabilire l'Islam, compresero che, almeno in un dato momento della sua vita, Maometto aveva approvato l'adorazione dei loro idoli, anche se poi annullò la pratica dell'adorazione rivolta alle tre dee della luna, figlie di Allah, Allat, Uzza, Al-Manat. A detta degli storici di oggi, Maometto venne compreso male perché si limitò a citare il nome delle dee, ma per i suoi concittadini meccani politeisti questo significò che egli le avesse legittimate. Cosa ne dite di Allat e Al-Uzza e avete voi il maschio e lui la femmina? Che ingiusta spartizione! Sura 53, 20-22. Allora, per far cessare le polemiche, parve bene a Maometto affermare che Allah gli aveva rivelato un'altra aia verso, il cui obiettivo reale era scagionarsi dall'accusa di essere un politeista. Non inviammo prima di te nessun messaggero e nessun profeta senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i suoi segni. Allah è sapiente, saggio. Sura 22:52. Purtroppo, nel fare ciò Maometto si è nuovamente contraddetto. Com'è possibile che il Dio di Maometto possa inviare profeti che si fanno ispirare da Satana? C. È quindi da dubitare della rivelazione del Corano? Oppure no? Nel verso sopra indicato si tratterebbe di una normalità. Non inviammo prima di te nessun messaggero e nessun profeta che, stiamo attenti, questa è bestemmia. Dobbiamo precisare ai nostri amici che, almeno Gesù non è mai stato ispirato da Satana, tantomeno lo ha affermato. Fede cristiana. La realtà è che il Corano, il cui autore è Maometto e non Dio, cade spesso in contraddizioni e perde clamorosamente la sua credibilità. È molto probabile che le cose stiano così. Quando Maometto al suo tempo frequentava certi monaci e cristiani gnostici, sentì e riportò le idee confuse in cui ristagnavano. Per esempio, in un Vangelo apocrifo denominato Vangelo gnostico di Bartolomeo, nel fantasioso colloquio tra Bartolomeo e il diavolo, che gli parla degli angeli, della propria disubbidienza a Dio, della creazione di Adamo, eccetera, leggiamo così: Dio creò Adamo nelle regioni dell'est, modellando la terra informe, tendendovi nervi e vene, e unendo ogni parte in tutto armonico. Poi lo benedisse, per riguardo a se stesso, perché era fatto a sua immagine. E l'angelo Michele lo adorò. Quando io il diavolo tornai dalle estremità del mondo, Michele mi disse: «Adora l'immagine di Dio, che egli ha fatto a sua somiglianza». Ma io risposi: «Io sono fuoco, fatto di fuoco, e sono il primo angelo che è stato creato. Dovrei adorare fango e materia?» Michele mi disse di nuovo: «Adoralo perché Dio non si adiri con te». Io risposi: «Dio non si adirerà con me. Altrimenti io eleverò il mio trono di fronte al suo trono e sarò come egli è», Isaia 13 e 15. «Allora Dio si adirò con me, e dopo avermi comandato che si aprissero le cataratte del cielo, mi scagliò giù. Quando io precipitai giù, Dio domandò ai 600 angeli che stavano sotto di me se volevano adorare Adamo, ma essi risposero: «Come abbiamo visto fare il nostro capo, così noi non vogliamo adorare uno che è inferiore a noi». Allora anche quei 600 furono da Dio gettati giù con me. I Vangeli apocrifi. E Inaudi Tascabili, 1990, pag. 436. Così è chiaro che il Corano ha preso degli elementi tratti in un Vangelo gnostico, altro che ispirato da Allah. Ma torniamo ora alla unica e autentica parola di Dio. Così anche sta scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo è del cielo. Qual è il terrestre? Tali saranno anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. I Corinzi 15, 45-48. Che, asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. I Pietro 3 e 22. Con questo brano davanti, possiamo fare notare all'amico musulmano che è di Gesù il titolo di essere Adamo, non quell'Adamo che avrebbe dovuto rimanere ubbidiente per sempre al Dio creatore, ma invece ubbidì alla seduzione di Satana. Infatti, come poteva Dio attribuire questa gloria al primo Adamo e come poteva assegnargli questa esclusività di essere venerato dagli angeli, sapendo come sarebbe caduto nel peccato, sedotto da Satana mediante sua moglie? Invece, il secondo Adamo, Gesù, fu come il primo Adamo, tentato sì per esempio 3 volte nel deserto, ma Gesù, il secondo Adamo, rimase vincitore contro la tentazione, mentre il diavolo, Satana, perse il confronto con Gesù. Gesù non si fece sedurre da Satana. Per questo Gesù, il secondo Adamo, è degno di ogni onore, e il Padre, il Creatore, ha ordinato a tutti gli angeli di adorarlo. Noi, di rimando i suoi salvati, riconosciamo la sua deità e di conseguenza abbiamo ragione di rivolgere a Cristo le nostre preghiere. In Ebrei infatti viene detto che Dio solo deve essere adorato. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato, e anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. Ebrei 1, 3 a 6. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Romani 5, 9, 12. Domande da porre ai nostri amici. Può Dio dividere la sua gloria con la creatura Adamo? Può Dio infine ordinare di adorare la creatura? Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Romani 1 e 25. Così, per turare la bocca di chi contraddice, potete parlare loro di queste cose. Di solito sanno rispettare chi parla con conoscenza, verità e rispetto insieme. Ti ha chiesto in sposa, e tu ti sei già innamorata del suo bronzeo aspetto mediorientale. E, intelligente, ricco, istruito e di buone maniere, che potrebbe volere di più una donna? Questo non ci saranno problemi, ti dice, tu puoi conservare la tua religione ed io conserverò la mia. Tuttavia, per quanto sia vero che l'Islam consente a un musulmano di sposare una donna cristiana, è poi tanto realistico credere che non ci sarebbero problemi in questo tipo di... Per rispondere a questa domanda, una donna dovrebbe prima di tutto analizzare cosa. L'Islam insegna che gli uomini sono superiori alle donne. Sura 2, 228. L'Islam insegna inoltre che le donne hanno la metà dei diritti degli uomini. Fu reso adorno agli occhi degli uomini l'amor dei piaceri, come le donne, i figli e le misure ben. L'Islam istruisce le donne perché si velino sempre quando sono fuori delle loro case. E di alle credenti che si coprano i seni d'un velo e non mostrino le loro parti più belle. Sura Maometto insegna che le donne sono mancanti in intelligenza e religione. Io non ho mai visto qualcuno più deficiente in intelligenza e religione delle donne. Al-Bukhari. Maometto insegna anche che le donne sono di cattivo auspicio. Vi è cattivo auspicio nelle donne, nella casa e nel cavallo. Al-Bukhari volto 7 e mezzo. Maometto insegna infine che le donne sono dannose per gli uomini. Dopo di me non lascio alcuna afflizione che sia più nociva agli uomini delle donne. Al-Bukhari. L'Islam permette la poligamia. Un uomo può sposare fino a 4 donne allo stesso tempo. Sposate allora di fra le donne che vi piacciono, 2, 3 o 4. Sura 4, 3. Un uomo può divorziare da sua moglie per mezzo di una dichiarazione pubblica, mentre la Poron, quando un marito ha pronunciato per 3 volte la formula del divorzio contro sua moglie, lei non ha la possibilità giuridica di risposare suo marito fino a quando non abbia sposato e sia stata ripudiata da un altro uomo, incluso l'aver avuto rapporti sessuali con questi. Dunque, se uno ripudia per la terza volta, la mogliessa non potrà più lecitamente tornare da lui, se non sposa prima un altro marito, il quale, se a sua volta la divorzia, non sarà peccato se i due. L'Islam insegna che una moglie è passibile di punizione da parte di suo marito. Picchiare una moglie o astenersi dall'avere rapporti sessuali con lei è permesso. Quanto a quelle di cui temete atti di disobbedienza, ammonitele, poi lasciatele sole nei loro. Le vostre donne sono come un campo per voi, venite dunque al vostro campo a vostro piacere. I tuoi bambini dovranno essere educati secondo la religione del loro padre musulmano, l'Islam. Se lui divorziasse da te, egli otterrebbe la custodia dei bambini, e tu non saresti più in grado di... La Sharia, la legge islamica, stabilisce che nei matrimoni misti i figli seguiranno la migliore tra le due religioni dei genitori, la quale nel tuo caso sarebbe considerata l'Islam. O voi che credete, Non preferite prender per patroni gli infedeli piuttosto che i credenti? Sura, se sopravvivessi al tuo marito musulmano e le sue proprietà si trovassero in un paese islamico, la legge islamica verrebbe applicata. La moglie che non si è convertita all'Islam non eredita nulla, mentre la moglie che si è convertita all'Islam eredita molto poco. Secondo il Corano, una moglie non eredita tutto il patrimonio di suo marito. Se il marito morisse non lasciando eredi, lei percepirebbe un quarto del suo patrimonio. I suoi genitori, i fratelli, gli zii, eccetera, percepirebbero il resto. Se il marito deceduto lasciasse eredi, allora la moglie percepirebbe un ottavo e i figli il... Ed esse, mogli, avranno a loro volta un quarto di tutto quel che voi morendo lascerete, se non avete figli. Che se li avrete, ad esse spetterà un ottavo dopo che siano stati pagati eventuali. Prima di impegnarti a sposare un musulmano, sarebbe una buona idea esaminare i motivi dietro tale scelta. Mentre tu potresti essere ispirata dall'amore, lui potrebbe solo voler ottenere. Lo so, si dice che l'amore è cieco. Tuttavia spero che questo messaggio servirà ad aprirti. Potresti replicare che il tuo futuro marito non è un musulmano praticante, ma non dimentichiamoci che l'Islam è più di una religione. Esso include un codice legale completo che sia i musulmani che i non musulmani devono rispettare in uno Stato islamico. In caso di disputa tra di voi, tutto ciò che gli sarà necessario fare per avere la meglio su di te sarà tornare in un... Se avessi dei dubbi a riguardo, permettimi di suggerirti di guardare il film Mai senza mia figlia, basato sulla storia vera di una donna americana moglie di un uomo musulmano. Questa potrebbe rivelarsi per te una esperienza vitale. Le vite che salveresti sarebbero là. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto ci è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? Secondo Corinzi 6:14. Nota alla traduzione. La versione del Corano utilizzata è quella a cura di Alessandro Bausani. Le vostre donne sono per voi come un campo da arare. Aratelo come più vi piace. Ma prima compite qualche atto pio, per il vostro bene, e abbiate il timore di Dio, e sappiate che un giorno lo incontrerete. Da questa lieta novella ai credenti. Se qualcuna delle vostre donne avrà commesso atti impuri, portate 4 vostri testimoni contro di loro, e se essi confermeranno tale comportamento, chiudetele in casa fino a che non moriranno, o fin quando Dio non apra loro una via. E quelli che accusano donne oneste e poi non possono portare i 4 testimoni siano condannati a ricevere 80 colpi di frusta e in seguito non si tenga più conto della loro testimonianza. Sono gli individui spregevoli. Le femmine che si rispettano sono sottomesse, gelosamente custodiscono l'onore in assenza del marito in cambio della protezione che Dio concede loro. Sura. Gli uomini sono preposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede gli uni rispetto alle altre e perché spendono per essi i loro beni. Le donne virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah concede alla Ciatala ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono non fate più. L'apostolo di Allah disse, il cattivo auspicio sta nella donna, nella casa e nel cavallo. Una volta l'apostolo di Allah andò a Musalla per offrire la preghiera Uid al-Adha o la preghiera al-Fitr. Poi sulla via incontrò le donne e disse, o donne, date l'elemosina perché ho visto che la maggior parte degli abitanti dell'inferno di... Lui rispose, voi bestemmiate frequentemente e siete ingrate ai vostri mariti. Non ho visto nessuno più scarsamente dotato di intelligenza e di religione di voi. Un uomo cauto e sensibile potrebbe essere sviato da qualcuna di voi. Le donne chiesero, o apostolo di Allah, di cosa manchiamo nella nostra intelligenza e religione? Virgolette. Egli disse, non è forse vero che la testimonianza di due donne equivalga a quella di un solo uomo? Egli disse, ecco il difetto nella sua intelligenza. Non è vero che una donna non può neanche pregare né digiunare durante il Qula e il Kumis. Il messaggero di Allah osservò, o donne, dovreste dare la carità e chiedere tanto perdono già che vi ho visto ammassate.

Quando non ero con lui sembrava che mi mancasse anche l'aria per respirare. Non ero mai stata fidanzata con nessuno, mai nessuno mi aveva fatto provare tali sensazioni. Ero sicura di aver trovato il vero amore, quello con la maiuscola. Ma la mia vita con il Signore non c'era più, non avevo più tempo per leggere la parola di Dio e per pregare. Quando chiedevo a Dio cosa fare, mi rispondevo da sola. Dio ha messo sulla mia strada tante persone per dissuadermi, e Satana ne ha messe altrettante per incoraggiarmi a sposarlo. Alla fine la carne ha vinto. Infatti nel 2000, dopo tante fatiche, io, una figlia di Dio, ho sposato un nemico di Gesù Cristo, lo stesso Gesù che era morto per me sulla croce per donarmi la vita eterna. Ho fatto l'errore di mettere al primo posto nella mia vita questo ragazzo incredulo, un musulmano non praticante, che ha saputo vendermi del fumo d'amore. Purtroppo io ero come incantata da questa persona e non riuscivo più a ragionare. Ovviamente gli ho anche parlato della mia fede, lui diceva sempre di sì, mi dava sempre ragione. Ma il Nuovo Testamento, in arabo che gli ho regalato, non lo ha mai letto. Ma la realtà è arrivata presto, molto presto. Io infatti lo amavo come Dio dice di amare il proprio marito. Matteo 19, 5 a 6, i Corinzi 7, 1, i Corinzi 13, Pietro 3, eccetera. Ma lui sentiva solo una forte attrazione e affetto nei miei confronti, non vero amore. In questo matrimonio esistevano suoi diritti e miei doveri. Ma io, nonostante tutto, ero ancora inebriata delle sue smancerie. Infatti, dopo circa 6 mesi dal matrimonio, era riuscito a convincermi a far crescere la famiglia con un figlio. Subito dopo essere rimasta incinta, cominciarono delle violente liti dove veniva fuori la sua parte peggiore. Mi ha sfondato una porta, ha rotto qualche mobile. Mentre io ero a casa per la gravidanza, lui ha preso il diploma di terza media inferiore, io ho aiutato a cercare un lavoro. Ma questa mia disponibilità non ha fatto altro che aumentare il suo ego. Infatti spesso usciva con gli amici e mi lasciava a casa da sola con il bambino. Se alcune volte chiedevo aiuto a lui, mi rispondeva che era stanco e che io non ero capace nemmeno a mandare avanti una famiglia. Se gli chiedevo di uscire con lui per svagarmi un po', mi urlava di stare a casa a pulire. Con questi insulti mi faceva sentire una persona totalmente inutile e incapace. Una sera ero uscita con mia cognata per comprare qualche abito. Lui era a casa in compagnia di suo fratello e il bambino dormiva. Il bambino si sveglia, lui mi chiama sul cellulare, ma io, nella confusione del negozio, non sento la suoneria. Comunque ero rimasta fuori casa solo un'oretta. Al mio ritorno lui e suo fratello mi hanno rimproverata davanti a mia cognata. Andati via. Tutti ha continuato a litigare con me fino al punto di tentare di strangolarmi. Ma Dio non ha permesso che mi accadesse altro. Infatti poi mio marito se n'è andato di casa e ha chiesto la separazione. Da circa 2 anni mi ha lasciata sola con mio figlio. Non ci passa gli alimenti. Prima che mi lasciasse eravamo pieni di debiti, ma il mio Padre Celeste mi ha liberato da ogni debito. Devo dire che, nonostante la mia lunga disubbidienza, Dio mi è stato sempre vicino. Mi ha sempre protetta dal marito che ho voluto scegliermi. Mi ha protetta fisicamente, economicamente e spiritualmente. In questo momento penserai che parla semplicemente una donna offesa e ferita? Sicuramente è anche vero. Ma in me c'è che è anche un figlio di Dio. E in nome di Gesù Cristo, il mio Salvatore, ti dico taglia. Taglia ogni tipo di rapporto e subito, come figli di Dio, noi abbiamo lo Spirito di Dio che vive in noi e, di sicuro, lo Spirito è contristato nel momento in cui ci leghiamo a un incredulo che è pur sempre un nemico di Dio. Ricordati sempre che un marra credente ha sempre una marcia in più che lo barra valorizza. Il timore di Dio. Un matrimonio con un credente è come una corda a 3 capi. Uno sei tu, l'altro è il tuo partner, ma il terzo e più importante è Dio stesso. Se la tua unione è con un cristiano e il tuo matrimonio è voluto da Dio, esso sarà grandemente benedetto. Tornando a me, ora sono madre di un bimbo meraviglioso donatomi dal Signore, nonostante la mia disobbedienza. Certo, sono una donna da sola a crescere un figlio, ma Dio è con me.

Potresti replicare che il tuo futuro marito non è un musulmano praticante, ma non dimentichiamoci che l'Islam è più di una religione, esso include un codice legale completo, che sia i musulmani che i non musulmani devono rispettare in uno Stato islamico. In caso di disputa tra di voi, tutto ciò che gli sarà necessario fare per avere la meglio su di te sarà tornare in una vihar. Se avessi dei dubbi a riguardo, permettimi di suggerirti di guardare il film Mai senza mia figlia, basato sulla storia vera di una donna americana moglie di un uomo musulmano. Questa potrebbe rivelarsi per te una esperienza vitale. Le vite che salveresti sarebbero la mano. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto ci è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? Secondo Corinzi 6:14. Nota alla traduzione. La versione del Corano utilizzata è quella a cura di Alessandro Bausani. Si può mangiare carne di suino? Manospirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella loro propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Infatti, tutto quello che Dio ha creato è buono, e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. I Timoteo 4:1-5. Nella mia lunga esperienza di evangelista, ho scoperto che una delle critiche più frequentemente mosse dai musulmani contro i cristiani è quella che questi ultimi sono da condannare come impuri perché mangiano la carne di maiale e ne tollerano il commercio. Dopo anni di discussioni mi sono accorto che non dare una risposta esauriente a questa domanda, bocciandola come futile, non giova affatto alla testimonianza. Eludere la questione non fa altro che rafforzare nei nostri amici il concetto di giustizia basata sulla legge e quindi causa un ulteriore allontanamento dalla verità. Per questo ora sono preparato a rispondere quando viene sollevata la questione. Facciamo un passo indietro. Per i musulmani l'aggettivo puro o impuro ha a che fare con l'astensione da certi tipi di cibo. L'esempio più noto è proprio quello della carne di maiale, che di regola i musulmani non mangiano. Nella legge di Mosè il concetto di impurità veniva definito soprattutto come forma di impurità cerimoniale, rituale piuttosto che morale, a meno che l'atto non fosse commesso volontariamente. Questo tipo di impurità impediva che un uomo potesse dedicarsi al servizio nel santuario e ostacolava il rapporto di comunione con i correligionari. In altre parole, soltanto la persona pura era nella condizione di avvicinarsi a Dio e di adorarlo. Di fatto i musulmani hanno adottato questi regolamenti della legge di Mosè e anche oggi vi si attengono strettamente per fare piacere ad Allah, specialmente per quanto riguarda il consumo dei cibi. Per questo motivo credono di essere giusti davanti a Dio. Il tipo di approccio. Quando si vuole parlare con un musulmano, occorre ricordare che egli si aggrappa al Corano, perché ritiene a priori che la Bibbia non è totalmente degna di fiducia. Iniziare dalla Bibbia, generalmente, è come parlare a un sordo, almeno finché la persona non viene messa di fronte alle incoerenze del Corano. Continueremo la riflessione cercando di capire perché il Corano diventa un boomerang contro le credenze dei musulmani riguardo alla carne di maiale. Successivamente esamineremo come i nostri amici devono comprendere le cose attraverso l'unica rivelazione valida, quella biblica. Per Abramo era proprio così. Per quanto ci è dato di sapere, i musulmani dichiarano di essere seguaci di Abramo. Dobbiamo quindi porre loro questa domanda. State seguendo fedelmente quello che la religione di Abramo insegna per quanto riguarda la questione di cibo? Il Corano afferma nella Sura 4:125 che Allah lo prese come amico, in arabo Khalilullah. In questo, il Corano conferma ciò che è scritto nella rivelazione biblica, in Isaia 41:8. Dio disse semplicemente al suo amico Abramo: «Io ti benedirò». Queste parole sono molto diverse da quelle che troviamo più avanti nella legge mosaica, farai o non farai. Prima di tutto, va fatto notare ai nostri amici che nel Corano non è contenuta alcuna sura, nella quale Allah dia indicazione diretta o indiretta ad Abramo di non mangiare carne di suino, o proibisca il consumo di particolari cibi classificandoli come impuri. Anche il Corano ribadisce questo fatto nella Sura 3:93-94, dove leggiamo: «Ogni cibo era permesso ai figli di Israele, eccetto quello che Israele stesso si era vietato, prima che fosse stata fatta scendere la Torah. Di portate dunque la Torah e recitatela, se siete veridici. Coloro che, dopo tutto ciò, costruiscono menzogne contro Allah, questi sono i prevaricatori». Sempre solo considerando il Corano, questi versetti sono rivolti ai figli di Giacobbe, anche detto Israele. Prendiamo in esame il versetto coranico. Stando alle testuali parole, esso significa che sono stati i nipoti di Abramo, da Giacobbe in poi, e non Dio, a imporre la legge al riguardo dei cibi da non mangiare. Quindi, ai tempi di Abramo, proprio come spiega la Sura, ogni cibo era permesso da Dio. A questo punto il musulmano, seriamente interessato, potrebbe porsi la seguente cruciale domanda. Poteva essere legittimo il consumo della carne di maiale da parte di Abramo, il quale, precisiamo, visse prima di Mosè? Seguirebbero allora tutte le decisioni del caso da parte del nostro amico. Domanda. I musulmani oggi seguono la legge di Israele o la legge di Dio? Ovvero, seguono la finta pietà oppure la semplice grazia di Dio? Questa domanda porta poi a porsene un'altra. Perché allora ad Abramo non furono imposte leggi in materia di cibi? Una risposta possibile è che la religione, parola che in arabo significa anche il sentiero di Abramo, non consisteva nel meritare la salvezza per mezzo di atti di giustizia, ma nel fatto che veramente lui credeva e poneva tutta la sua fiducia nel disinteressato amore di Allah per lui. Abramo fu salvato per grazia mediante la fede, l'eccezione alla regola. E interessante notare che il Corano esplicitamente suggerisce ai musulmani di mangiare la carne di maiale. Sura 2, 173, 5, 3b. Diamo ora un'occhiata alla Bibbia. Il nostro scopo qui è di presentare non solo i principi generali, ma anche i dettagli tecnici della Torah, di cui parla la Sura 3, 93, contenuti nella Sacra Bibbia ed esposti in Levitico 11, 7. I musulmani devono attenersi al testo biblico e aderire a esso parola per parola. Non dice il Corano che devono osservare la scrittura biblica. Secondo il Corano, non farlo significa essere dei prevaricatori. Lo abbiamo già letto. Portate dunque la Torah e recitatela, se siete veridici. Sura 3, 93. In Levitico 11, 4 a 7. Leggiamo che per quanto riguarda l'impurità di cibi è vietato consumare, oltre alla carne di maiale, anche il cammello, il coniglio e la lepre. Ma noi sappiamo che gli arabi erano soliti mangiare carne di cammello e di coniglio, e lo fanno tuttora, anche se questi sono due tipi di carne ritenuti impuri dalla legge di Mosè. Ma tra quelli che ruminano e tra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi. Il cammello, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. Il coniglio, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. La lepre, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, la considererete impura. Il porco, perché ha l'unghia spartita, e Levitico 11, 4 a 7. I musulmani vogliono osservare la legge di Mosè, ma di fatto non stanno seguendo la legge di Dio ispirata, data a Mosè, né tantomeno la legge dei figli di Giacobbe, come ci ricorda la Sura 3, 93. Se devono adempiere tutta le leggi di Mosè, allora devono cessare di mangiare anche la carne di cammello, di coniglio e di lepre. Che cosa ha detto Gesù? A questo punto vogliamo incoraggiare i nostri amici musulmani a leggere le parole migliori per loro, le parole sacre pronunciate sulla questione dal Signore Gesù il Messia. Le sue parole non si trovano certo nel Corano. Gesù il Messia, nel suo insegnamento glorioso sulle questioni del consumo di cibo puro e impuro, ha posto l'enfasi sulla moralità e la purezza interiore, anziché sulla religione rituale puramente esterna. Per esempio, quando al Signore Gesù fu posta dagli ebrei una domanda riguardo alla religione esteriore rituale praticata. Secondo la legge di Mosè, la Torah, egli replicò dicendo che essi erano ipocriti. Diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi per udire oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina. Così dicendo dichiarava puri tutti i cibi. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Marco 7, 14, 23. In altre parole, Gesù ribadisce che la religione esteriore non è preziosa né importante davanti a Dio, ma non è invece un cuore puro. Che cosa dice ancora Dio nella Bibbia? Nel Nuovo Testamento, in Atti 10 e un quarto, secoli prima della venuta del Corano di Maometto, abbiamo la rivelazione da Dio che conferma. E una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: no, assolutamente, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Atti 10, 13, 15. In questo brano vediamo che Pietro, discepolo di Gesù, fu ripreso da Dio quando rifiutò il cibo impuro, che Dio stesso gli offrì dal cielo, perché Pietro aveva fame. Dio ordinò a Pietro: ammazza e mangia. In questo modo singolare Dio ha reso lecita all'uomo ogni forma di cibo. I nostri cari amici musulmani potrebbero anche chiedersi: perché Dio abbia dato queste concessioni? Come lo ha fatto nel caso di Pietro? Perché non vuole imporci delle regole sui cibi? Ironicamente, anche il Corano, nel quale essi credono, annuncia che Dio vuole rendere più leggeri i loro pesi. Allah vuole alleviare i vostri obblighi perché l'uomo è stato creato debole. Sura 4 e 28. Questo brano, finito in qualche modo nel Corano, voleva indicare proprio quello che aveva detto il Signore Gesù, molti secoli prima di Maometto. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Matteo 11 e 28. Allora possiamo dire ai nostri amici musulmani: la legge è molto severa e tu stai trasgredendo questa legge. Poiché Dio dice nella Bibbia che l'uomo che vive per la legge deve osservare attentamente tutta la legge, quindi è impossibile piacere a Dio agendo con la propria buona volontà. Chi con i suoi atti dichiara anche indirettamente che Dio non ha detto questa parola, lo fa bugiardo. L'è la tradizione islamica. Che cosa dice Maometto nel Corano? Persino Maometto, il quale i musulmani credono un profeta, dichiarò che i musulmani devono mangiare il cibo del popolo del libro. Oggi vi sono permesse le cose buone e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è stata data la scrittura. E il vostro cibo è lecito a loro. Sura 5, 5. Una lunga serie di riflessioni. Allora i nostri amici musulmani devono chiedersi: qual è il cibo impuro per il popolo del libro, ossia per i cristiani? E poi, secondo quello che è scritto nella Sura 5, 5, non è forse vero che il Corano non contiene istruzioni complete o precise né evidenze per poter istruire correttamente la comunità musulmana? Persino l'eminente commentatore ed esegete islamico Yusuf Ali afferma, nella sua nota a piedi pagina 246 sul significato dell'esse Corano, pubblicato da Amana nel 1992, questa sura fa riferimento al Nuovo Testamento in Atti 15 e 29. Dunque, così dicendo, non sta forse confermando che il comportamento dei cristiani davanti a Dio è giusto? Allora, perché i musulmani non obbediscono alla parola di Dio in Atti 15 e 29 seguendo l'esempio dei cristiani, come afferma Yusuf Ali? La parola ispirata comanda, rivolgendosi ai cristiani, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani, Atti 15 e 29. Perché i musulmani vogliono vivere sotto la legge mosaica disubbidendo a Dio? Come abbiamo visto, forse non è proprio una coincidenza che il loro profeta Maometto abbia voluto confermare quello che è stato dato secoli prima da Dio all'apostolo Pietro e che troviamo in Atti 15 e 29, 10, 13, 15. Certamente una persona non è obbligata a mangiare carne di suino se la trova ripugnante, ma se la motivazione è soltanto quella di soddisfare il proprio orgoglio, il proprio senso di santità, allora questa persona cade nel peccato d'orgoglio religioso. Domanda da rivolgere in ultima analisi al nostro amico musulmano. Che cosa è più difficile per noi, esseri umani, l'astenersi dal consumo della carne di maiale, di cammello, coniglio e di lepre, oppure dall'immoralità sessuale, dal furto, dalla gelosia o dagli altri peccati denunciati dal Messia? IILCCOORRANNOO ELLAPPARLOLLADDIIDDIIOO ESSTTA. Antico Testamento Ta, rivela Antico Testamento Ta, AADDUUNNPPRROFFABBBETTA. Necessari preamboli. Molto diffusa tra i musulmani è la credenza secondo la quale Maometto fosse analfabeta, infatti essi arguiscono come può un uomo analfabeta comporre un libro tanto sublime ed eccelso come il Corano. Per questa la Sura 7, 157, esprime chiaramente tale opinione. A coloro che seguono il messaggero, il profeta e il letterato che trovano chiaramente menzionato nella Torah e nel Vangelo. Sura 7, 157. Questo non è che un fraintendimento dettato da un problema di traduzione nonché di interpretazione da parte dei musulmani della parola araba UMMI. Tale termine significa letteralmente ignorante, quindi il musulmano di cultura medio-bassa inevitabilmente assegna questo significato al termine UMMI accento grave. Per capire a fondo cosa significhi la parola illetterato è allora necessario analizzare il termine in lingua araba, ossia la lingua originale del Corano. Ad un'attenta analisi, l'espressione profeta illetterato si traduce in Nabial UMMI, dove Nabi significa profeta, mentre UMMI ignorante, ed è ampiamente confermato dalla Sura 62, 2. Egli è colui che ha inviato tra gli illetterati un messaggero della loro gente che recita i suoi versetti, li purifica e insegna loro il libro e la saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente. Il profeta è incolto della scrittura. Il tempo dell'ignoranza è riferito al tempo precedente la nascita di Maometto, in Arabia. È più probabile credere che Maometto si autoconsiderasse profeta per il popolo dell'ignoranza, piuttosto che credere che fosse analfabeta. Ciò sembra inverosimile se pensiamo al suo status di mercante, tra l'altro molto abile. Quello che stiamo cercando di dire è che la parola UMMI è stata usata per persone che non avevano la Sacra Scrittura. Come invece per ebrei e cristiani, la gente del libro, così indicati dal Corano, i quali vantavano già una lunga tradizione di apprendimento della Scrittura. Più avanti nel capitolo vedremo che Maometto era in grado di scrivere come sancito dalle hadith, che sono riportate tali e quali dalla tradizione scritta islamica e dal Corano stesso. LANNONDISPONEDIELITA a dialogare. Molti musulmani non accettano che il Corano sia messo in discussione, tuttavia qualunque religione, per essere trasparente nei suoi principi, dovrebbe saper accogliere critiche, commenti, riflessioni e quant'altro attraverso i normali criteri di ricerca, oppure attraverso il confronto o il dialogo con altre religioni. Fatta questa premessa, esaminiamo ora il Corano. I musulmani, per conferire un'aura sacra al Corano, insistono sul fatto che Maometto fosse analfabeta, UMMI. Non si esclude che gli studiosi musulmani della prima era avessero appositamente proclamato Maometto uomo illetterato. Essi pensavano che in questo modo la presunta straordinaria eccellenza letteraria del Corano avrebbe avuto fama di opera miracolosa. Se chiederete loro perché sia tanto importante l'abilità di poeta attribuita a Maometto, essi vi risponderanno che un analfabeta non avrebbe potuto dare origine a un'opera letteraria unica al mondo come il Corano. Per queste ragioni, essi ritengono che il Corano sia stato ispirato da Allah e che Maometto sia il profeta per tutto il mondo. Infatti, essi pensano correntemente in questo modo. Come può un analfabeta comporre un libro unico e meraviglioso come il Corano? È semplicemente impensabile che Maometto, un illetterato, sia mai diventato un esperto di poesia in lingua araba. In questo studio analizzeremo alcune convinzioni dei nostri amici musulmani. Iniziamo a esaminare e a riflettere su quei versetti che vi citeranno i musulmani, sui quali è basata la loro credenza. A coloro che seguono il messaggero, il profeta illetterato, incolto, che trovano chiaramente menzionato nella Torah e nel Vangelo. Sura 7, 157. Egli è colui che ha inviato tra gli illetterati un messaggero della loro gente, che recita i suoi versetti, li purifica e insegna loro il libro e la saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente. Sura 62, 2. Qualsiasi dizionario di arabo traduce come il tempo dell'ignoranza con rororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor arabo vi trovate ihu. Quindi si evince che il termine ignorante è stato tradotto anche con ummij, ma significa la medesima cosa, incolto a riguardo della scrittura. Da questo momento in poi, in italiano, possiamo adottare la traduzione incolto invece che il letterato, che mi pare deviante come traduzione. Chi sono questi incolti, Draso illetterati? In lingua araba la parola usata è ummiyuna, illetterati, incolti, come nelle sure 757, 62.2. Anche in questo contesto, la parola ummi è usata per indicare quelle persone che non avevano le scritture, a differenza degli ebrei e dei cristiani, o altrimenti detto queste persone non erano conoscenti delle sacre scritture, o semplicemente erano incolti, o non avevano familiarità con la parola di Dio. Ciò sembra confermato dal commentario del Corano, dove abbastanza chiaramente è scritto Revisione e controllo dottrinale del 488, inviato tra gli illetterati un messaggero, il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, inviato tra gli arabi, che vengono indicati come UMMI, termine tradotto con illetterato. Non che tutti gli arabi lo fossero, certo lo era la stragrande maggioranza, ma costituivano storicamente un popolo che non aveva ricevuto nessuna parte della scrittura, il Corano ed el Hikma, Pag 488 nota 1. Nemmeno il commentario del Corano comprova che Maometto sia stato analfabeta, ossia che proprio non sapesse né leggere né scrivere. Responso sciocca Nuovo Testamento. Pertanto, per riassumere, Maometto comprese di essere il profeta per i suoi contemporanei che non avevano il libro né la rivelazione divina, cioè per gli incolti rispetto alle sacre scritture, vedi Sura 62.2 di quel tempo. Il Corano e i commentatori islamici comprovano indirettamente che Maometto, per dare un'ulteriore dimostrazione, per mezzo di un controllo incrociato dal testo del Corano, un altro versetto, riferendosi agli ebrei, indica espressamente che sono illetterati coloro nel cui contesto si parli di persone parzialmente a conoscenza delle scritture. E tra loro ci sono illetterati che hanno solo una vaga idea delle scritture, sulle quali fanno vane congetture. Sura 2, 78. Nel commentario del Corano viene taciuto qualsiasi commento. Mentre nel Corano in lingua inglese Yusuf Ali, molto più generoso nelle spiegazioni rispetto alla versione italiana, ci dà la conferma di quanto spiegato finora. Il commentario, nota numero 84, cita: molti di loro, anche se sapevano leggere, non erano meglio degli analfabeti, perché non conoscevano la loro vera scrittura, ma preferivano leggervi in essa ciò che volevano, o nel migliore dei casi, farsi le loro interpretazioni. È assai improbabile che tutti gli ebrei non sapessero né leggere né scrivere a quel tempo. Perché se così fosse Maometto non si sarebbe macchiato di falsa testimonianza? Il versetto in questione sta invece sostenendo la scarsa dimestichezza degli ebrei. In quel tempo in Arabia, con la Torah, i Salmi e i Vangeli. La traduzione dall'arabo della parola IUMMIA uguale incolto, riferito a Maometto nel Corano, significa che egli non conosceva affatto le sacre scritture rivelate da Dio a Mosè. Se i musulmani insistono che la parola singolare in arabo IUMMIA significhi illetterato, possiamo riferirci ad uno fra i dizionari arabi più autorevoli ed in voga attualmente, il quale riporta fino a 3 significati diversi della parola UMMI. Oltre a significare illetterato, significa, in qualche contesto, incolto, mentre in altri contesti, strano ma vero, mammone, Arabic English Dictionary, The Hansver Dictionary of Modern Written Arabic, 3rd edition, edited by J.M. Cow. Ecco alcune risposte. La prima rivelazione fu Leggi, che comprendeva l'affermazione Dio insegna tramite la penna, 96:1-4. La seconda rivelazione fu la penna, 68:1. L'unica funzione che ha la penna è quella di scrivere. Il Corano ci dice che Maometto stesso ha scritto il Corano, altrimenti cosa intendevano dire i suoi contemporanei che vi sono citati, i quali asseriscono, riferendosi a Maometto: le cose che egli ha scritto sono favole del passato, gli vengono dettate giorno e notte. Sura 25:5. Ne consegue che non è possibile dettare ad una persona incapace di leggere e scrivere. Altre prove evidenti a sostegno di questa mia tesi. Attraverso l'autorevolissimo Hadith al-Bukhari e dei brani citati successivamente, comprendiamo che Maometto non era illetterato. Scrisse perfino il suo contratto di matrimonio. Con queste prove, perché Maometto è ancora ritenuto dai musulmani un analfabeta se sapeva scrivere? La risposta, secondo me, è che la stragrande maggioranza dei musulmani non conosce a fondo le informazioni tramandate dalla loro tradizione e, di conseguenza, sono ignari di questi dati importanti. Quando i miei amici musulmani lo hanno saputo, sono rimasti stupiti. Diamo loro queste indiscutibili prove dalla loro tradizione. Un'ulteriore dimostrazione che Maometto sapesse scrivere proviene dalla tradizione islamica di al-Bukhari. Ibn Abbas disse: quando la malattia del profeta volse a peggiorare, egli disse: portatemi carta da scrivere, e io vi scriverò le mie volontà in modo che non vi svierete. Sahih al-Bukhari, Hadith 1114, riportato da Ubaydullah bin Abdullah. Una volta il profeta scrisse una lettera, o ebbe l'idea di scrivere una lettera. Al profeta venne detto che i governanti non l'avrebbero letta, sino a che non avrebbe recato il sigillo. Di conseguenza il profeta si procurò un anello d'argento con stampigliato il marchio che diceva Maometto, l'apostolo di Dio. Io ammiravo il bianco luccichio nella mano del profeta sento curamento, Sahih al-Bukhari Hadith 1.65. riportato da Anas bin Malik. Noi accompagniamo il profeta nel Ghazwa di Tabuk, e il re di Aila presentava un mulo bianco e una coperta come un dono al profeta. Dopodiché il profeta gli scrisse un trattato di pace, permettendogli di rimanere sul suo paese. Sahih al-Bukhari Hadith 4387, riportato da Abu Humeid as-Saidi. L'apostolo di Allah scrisse una lettera a Cesare dicendo: se tu rigetti l'Islam, tu sarai responsabile per i peccati della tua gente. Sahih al-Bukhari Hadith 4187, riportato da Abdullah bin Abbas. L'apostolo di Allah scrisse a Cesare e lo invitava ad accettare l'Islam e gli mandò una lettera attraverso Dihya al-Kalbi, facendola recapitare al governatore di Busra, il quale l'avrebbe passata a sua volta a Cesare. Sahih al-Bukhari Hadith 4191, riportato da Abdullah bin Abbas. L'apostolo di Allah prese il documento e scrisse: questo è ciò sul quale Muhammad, figlio di Abdullah, si è accordato. Sahih al-Bukhari Hadith 3863, riportato da Al-Bara. L'apostolo di Allah disse: i giudei devono pagare il prezzo di sangue del tuo compagno, ucciso, o dichiarare guerra. Detto questo, l'apostolo di Allah scrisse una lettera ai giudei di quel tenore, e loro gli scrissero che non lo uccisero. Sahih al-Bukhari Hadith 9302, riportato da Abu Leila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahl. Il profeta scrisse il contratto di matrimonio con Aisha mentre lei aveva appena 6 anni e consumava il matrimonio con lei, quando la bambina aveva 9 anni. Aisha rimase con lui per 9 anni, fino alla sua morte. Sahih al-Bukhari Hadith 7.88, riportato da Ursa. Nota: lui aveva circa 50 anni. Noi eravamo a Mirbad. Un uomo con capelli lunghi venne verso di noi. Leggemmo il testo che ci porse, da Maometto. Apostolo di Allah, Abano Zuhair ibn Uqaysh. Se tu ammetti che non c'è Ish e altro Dio che Allah e Maometto è il suo profeta, offri preghiere, paghi l'offerta, zakat, eccetera, tu sarai sotto la protezione dell'apostolo di Allah. Quindi noi gli chiedemmo: chi ha scritto questo documento? Egli rispose: l'apostolo di Allah. Sunan di Abu Dawud, Hadith 2993, riportato da Yazid ibn Abdullah. Va ricordato che i beduini erano i più eloquenti nel parlare l'arabo classico. Maometto crebbe fino a 5 anni con loro. Fino a 40 anni egli lavorò nel commercio con loro. Come tutti sappiamo, un commerciante ha a che fare con cifre e contratti. Maometto divenne tanto abile, riporta la tradizione islamica, che una ricca vedova lo assunse alle sue dipendenze come capo della propria ditta. Questa divenne poi sua moglie, Khadija, che aveva 40 anni mentre lui 25. Chi assumerebbe un commerciante analfabeta a capo di un'azienda? Io chiedo loro: tu assumeresti un analfabeta in quella realtà? Conclusioni. Sebbene UMMI possa talvolta significare analfabeta, incapace di leggere e scrivere, può anche voler dire, nel caso di Maometto, non istruito formalmente, incolto, nel senso di non aver ricevuto un'istruzione rabbinica formale. Per dirlo in un altro modo, ma con lo stesso significato, può voler dire uomo comune, laico, non specialista delle sacre scritture, nel senso che, e tutti i musulmani sono d'accordo, fino al momento che iniziò il suo mandato, non conosceva la Torah, i Salmi e il Vangelo. La lingua araba al tempo di Maometto si parlava in tutta l'Arabia. L'usanza di parlare facendo allo stesso tempo poesia era dilagante in quel periodo, tanto che le poesie più lunghe e più belle venivano appese comunto darre, queste erano chiamate muallakat, per essere mostrate al pubblico. Maometto crebbe in questa cultura e ne apprese lo stile automaticamente. Molte fonti autorevoli attualmente in circolazione danno per scontato che non si può escludere che il Corano sia stato composto e scritto da Maometto. Stile letterario della Bibbia e del Corano. Riguardo alla cosiddetta poesia inimitabile contenuta fra i versi del Corano, dobbiamo rispondere. Se i musulmani prendono come riferimento l'arte poetica di alcuni versi citati nel Corano come motivo di ispirazione divina, dovrebbero altresì conoscere i libri di diversi profeti dell'Antico Testamento. Citiamo in ordine alfabetico solo alcuni fra i profeti che scrissero in forma poetica per ispirazione divina. Il profeta Daniele, che ci ha lasciato dei brani biblici di genere prosaico. 1. 2. L'esempio per eccellenza è il profeta Davide, compositore del libro dei Salmi nella Bibbia. I Salmi rappresentano poesia lirica, espressioni poetiche, linguaggio evocativo, la metrica nella poesia, parallelismi poetici, 6 tipi di parallelismi, sinonimico, emblematico, antitetico, incompleto, graduale, schemi acrostici, salmi più lamentazioni, armonia strutturale. Il profeta Geremia, il profeta Giobbe, il profeta Michea, il profeta Naum. 3, 4, 5, 6. Si evidenzia che, se i musulmani non imparano la lingua ebraica, non possono constatare lo stile poetico dei profeti suddetti della Bibbia. E noi occidentali, poiché non conosciamo la lingua araba, non possiamo constatare la forma poetica del Corano. Ne consegue che, se i brani poetici della Sacra Bibbia, sebbene rivelati e scritti dai profeti dell'Antico Testamento, essi dal canto loro non dovrebbero stupirsi se i non musulmani non attribuiscono al Corano la stessa importanza. Al tempo di Maometto e ancora prima, la poesia era una pratica così quotidiana e comune quanto oggi lo è lo sport in Italia. Sarebbe ancora più probabile pensare che Maometto fosse naturalmente portato a comporre poesie, perché i beduini, la tribù di cui faceva parte, erano, fra gli arabi, i più eloquenti e poetici. Per dimostrare il suo ufficio profetico, devono produrre prove inequivocabili e storicamente documentate. Concludo ripetendo che il termine illetterato corrente nel Corano si riferisce a chi è inculto rispetto alle sacre scritture. Pertanto la traduzione o l'interpretazione di illetterato è impropria e deviante per i nostri amici e per gli occidentali ai quali viene imposta questa errata comprensione. Dall'esame di quanto sopra esposto si definisce che il profeta annotò e memorizzò i versetti che gli giungevano alla memoria. Quale circoncisione? Quella del cuore o della carne? Or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ora chi opera la mercede non è messa in conto di grazia ma di debito, mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale il Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Questa beatitudine è la soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi, poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevete il segno della circoncisione, qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia. E il padre dei circoncisi, di quelli, cioè, che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Lettura da Romani. Poiché la promessa d'essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base, perché, se quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge genera ira, ma dove non c'è è legge non c'è è neppur trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto: «Io ti ho costituito padre di molte nazioni, dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti, e chiama le cose che non sono, come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette, per diventar padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto: così sarà la tua progenie». E senza venir meno nella fede egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado d'esser madre, ma, dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso, egli era anche potente da effettuarlo. Ond, e che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or non per lui, soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto. Per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Romani 4, 3-25. Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurate più il vostro collo. Deuteronomio 10 e 16. Essi risposero e gli dissero: «Il padre nostro è Abramo». Gesù disse loro: «Se foste figliuoli d'Abramo, fareste le opere d'Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che v'ho detta la verità, che ho udita da Dio, così non fece Abramo». Giovanni 8 e 39. I musulmani sono fieri di spiegare che loro seguono l'esempio di Abramo e, affermando questo, ritengono avere il monopolio della verità. Come abbiamo visto, Abramo si fece circoncidere in risposta al comando di Dio, e al di d'oggi, loro, anche i musulmani, si fanno circoncidere come Abramo. Adducendo inoltre che noi cristiani non siamo seguaci di Abramo perché nella nostra religione abbiamo abrogato la circoncisione. Contrariamente a quanto alcuni siano indotti a pensare, non sono i musulmani che hanno inventato questa tradizione, Genesi 17, 9, 14, E a te e alla tua progenie dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perpetuo. E sarò loro Dio. Poi Dio disse ad Abramo: quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua progenie dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua progenie dopo di te. Ogni maschio fra voi sia circonciso. E sarete circoncisi, e questo sarà un segno del patto fra me e voi. Genesi 17, 8-11. Dal testo biblico si evince che Dio sta parlando di una unica progenie e non di altre progenie. E, anche noto che da Abramo sono scaturite tre progenie, uno dalla concubina Agar e dalle mogli Sara e Chetura, quest'ultima dopo che egli rimase vedovo di Sara. Perché Dio sta parlando quindi di una generazione piuttosto che di tutte quella cui dovrà attenersi al patto? Non è necessario essere un esperto teologo per saperne la risposta. Dio preannunciò il figlio della promessa e da questi sarebbe scaturito il popolo di Dio preferito, il popolo ebraico. Conseguenza logica. Il patto che Dio sta stringendo con Abramo che va ad estendersi alla sua discendenza è quello ebraico, non si riferisce quindi alla discendenza di Ismaele e nemmeno a quello di Chetura. Dio comandò alla progenie di Abramo, in Isacco, ad osservare il patto con Dio. Certo, anche gli schiavi saranno circoncisi, ci viene detto dalla Bibbia, ma come conseguenza del fatto che sono un popolo appartenente a questo, ai giorni d'oggi, vuole significare che per grazia ad Abramo Dio estese il patto anche agli stranieri, agli incirconcisi di cuore. Innanzitutto è opportuno spiegare che gli ebrei sono il popolo più antico che hanno seguito l'esempio di Abramo. I musulmani vengono solo ultimi, ma non perché si sono sottoposti al comando di Dio, ma di propria iniziativa. I cristiani seguono l'esempio, la religione di Abramo. Dio, quando ha benedetto Abramo, nei termini di cui sopra, Dio ha fatto diventare Abramo stesso indicatore stradale per tutte le generazioni dopo di lui, e che provengono da Isacco e Giacobbe suoi discendenti. Il Messia, Gesù Cristo, discenderà dalla progenie di Giacobbe alcune migliaia di anni dopo. Il Vangelo riporta in Galati 3,16: se dunque siete in Cristo, qualunque razza, tribù e popolo, siete della progenie di Abramo. Nella Sacra Bibbia Dio ci ha lasciato la sua opinione come deve essere eseguita la vera circoncisione, Deuteronomio 10,16, quella circoncisione del cuore Levitico 27,3-4. Origine e credibilità di Deuteronomio 10,16. Perché? Anche se le persone erano fisicamente circoncise, loro agivano peccaminosamente come gli incirconcisi e le nazioni pagane intorno a loro. Questi circoncisi non erano per l'opinione di Dio veramente consacrati al loro Signore. Geremia 4, 4 qualche migliaio di anni dopo Abramo ordinava questo. Gesù, in una delle sue riprensioni dirette ai farisei, li paragonò come a degli incirconcisi. Matteo 15, 7-19. Un'altra puntualizzazione doverosa da fare notare è la seguente. Abramo non fu considerato giusto davanti a Dio perché fu circonciso. Ancor prima che Dio gli comandasse la circoncisione, Abramo fu trovato degno di essere chiamato amico di Dio, perché aveva creduto alle promesse di Dio per lui. Dopo, solo dopo, quale suggello Dio gli comandò la circoncisione, ma prima era trovato circonciso, la circoncisione detta del cuore. Atti 2:2. La lettera ai Romani 4:9-12 ci addentra in questa meravigliosa verità di Dio. Non basta essere circoncisi di carne, dice ai circoncisi per la legge, ma seguire l'esempio di fede, fiducia di Abramo in Dio. E un uomo può essere sposato e con tanto di testimone e certificati, e lo stesso essere un adultero contro sua moglie. Quei certificati e testimoni sono agli occhi di Dio giustificanti per le azioni di quel uomo adultero? Il patto è stato violato, il cuore dell'uomo non apparteneva a sua moglie pur esistendo il certificato di matrimonio, similmente è così con la circoncisione. In altre parole, la benedizione ereditata a Abramo non era riposta sulla sua presunta infallibilità religiosa, ma soltanto sulla fiducia nella fedeltà di Dio. Numeri 33-52, Levitico 26-1, Salmi 106-34-36. L.A. Circoncisione del cuore. Abramo si separò da ogni idolatria. Genesi 13-12-13 e Dio lo benedisse in conseguenza di questa sua scelta. 13-14-17. Egli si separò anche dal padre, ubbidendo a Dio. Leggere note 13-12, Pag 28, 13-9-10, 12-2-3, Pag 26 e promise di farlo. Divenire padre di moltitudini, Genesi 17-4, e la sua progenie in Isacco e i suoi discendenti 17-19. Sura 38-45-46, 29-27. Lot, sapendo com'era la situazione di Sodoma e Gomorra, anche se uomo religioso, scelse di vivere con loro perché tentato dalla sua concupiscenza, Genesi 19-20-19. Conseguenze di Lot. Esso venne risparmiato, Genesi 19-21-29, da Dio per quella grazia rivolta esclusivamente ad Abramo. Le figlie cresciute in mezzo agli idoli sono contaminate prendendo la conclusione delle nazioni pagane in cui vissero. Ancora oggi, la maggioranza dei musulmani praticano magia, E.T.C. Sura 2, 130. Seguire la religione di Adamo. Per aiutare i musulmani, potremmo loro leggere il suddetto versetto coranico come spunto e per improntare la conversazione anche con un ponte. Stai tu davvero seguendo L-A-R-E-L-I-G-O-N-E di Abramo? L'individuo pio vuole piacere a Dio. Da sempre gli uomini cercano di piacere a Dio santificandosi attraverso l'apparenza e la purità esteriore, modi questi che però non procedono da Dio. Non si può barattare con Dio la verità e continuare a vivere nel peccato, come se bastasse essere circoncisi osservanti della religione. Dio non si fa abbindolare dalla nostra furbizia. Tale sarà la condanna. E, risaputo dai musulmani ricercatori della verità, che il rituale meccanico di pregare 5 volte al giorno, recitando versi del Corano che non capiscono e che quindi per loro non significano nulla. Alzarsi a orari tassativi e cambiare le abitudini ai pasti, mangiando dopo il tramonto per i 30 giorni del Ramadan, non sono mezzi validi per diventare più spirituali. Diversamente, al contrario, succede invece a coloro che accettano Cristo. La tendenza mondiale dimostra che è Gesù Cristo che sta marciando vittoriosamente perché il suo messaggio esige il rispetto della persona, la libera scelta di questa, sia nel pensiero che nell'azione, cosa che rende la persona responsabile del proprio agire. Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, che io punirò tutti i circoncisi che sono incirconcisi. L'Egitto, Giuda, Edom, i figlioli di Ammon, Moab e tutti quelli che si tagliano i canti della barba e abitano nel deserto, poiché tutte le nazioni sono incirconcise e tutta la casa di Israele. Geremia 9:25. Gesù è Dio. I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Gesù rispose loro, non è egli scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro a quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, che bestemmia, perché ho detto, son figliolo di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Giovanni 10, 33-38. Durante il mio ministero, ho incontrato molte volte musulmani critici, con alte cariche e beffeggiare più o meno con questi termini. Dio è sempre stato solo, e un bel giorno per voi cristiani ha deciso di procurarsi un figlio. Può capitare anche ad alcuni di voi cari lettori. Pertanto prima di dialogare con un musulmano sull'argomento, preparatevi. Gesù non è nato un bel giorno e gli spiego al mio amico con lentezza al fine di farmi comprendere meglio che Cristo è. Abbe trenno in creato, Salmo 2:7, Matteo 2:11, Giovanni 5:23, 9, 35-37, 1 Giovanni 5:20-21, eccetera, eccetera. Per i musulmani credere che Gesù è Dio significa commettere peccato mortale, perché dal Corano leggono che chi dice che Gesù, il Messia, è Dio, commette un peccato. Certi musulmani credono che a coloro che hanno commesso grandi peccati, kabir, spetti l'inferno, ma non per sempre. Sura 11, 106-107. Di riflesso, un musulmano pur credendo che un giorno, prima o poi, andrà in paradiso, si guarda bene dal confessare che Gesù è Dio proprio perché questo è l'unico peccato imperdonabile. Non è necessario cominciare in prima istanza col voler convincere il musulmano che Gesù è Dio, come spesso accade. Egli vi dirà che noi crediamo in un'eresia, perché Gesù non ha mai detto, letteralmente, di essere Dio. I musulmani, a sostegno di quanto credono, affermano che Gesù si escluda letteralmente dall'essersi dichiarato Dio. Vi citeranno i versetti del Vangelo per dimostrarvelo, come ad esempio in Matteo 4 e 10, dove, tentato dal diavolo, Gesù dice: «Adora il Signore tuo Dio, e a Lui solo prendi il culto», oppure nel Vangelo di Luca: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio», 18 e 19. Certamente tutti possiamo mostrare i molti versetti biblici nei quali la divinità di Gesù è sostenuta ben chiaramente, ma essi vi risponderanno che sono stati gli apostoli di Gesù a introdurre questo dogma sulla sua deità, specialmente Paolo. Ciò è assolutamente sbagliato. Prendiamo ad esempio una delle molte profezie nell'Antico Testamento a riguardo della venuta di Cristo. Il profeta Isaia, ispirato dallo Spirito Santo, poté rivelare: «Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti», Isaia 9, 1, 5 a 6. Da questa rivelazione biblica profetizzata 700 anni prima di Cristo, tutti si apprende che Gesù sarebbe venuto non soltanto per essere un semplice profeta, come i musulmani sostengono, ma anche che egli era ed è l'onnipotente Dio. Questa non era una supposizione fatta dai cristiani o dall'apostolo Paolo. Era la promessa che Dio sarebbe venuto nel mondo nella persona del Messia, chiamato per l'appunto Emanuele, che, dall'ebraico, significa Dio con noi. Il profeta Isaia ben profetizzò, ancora ispirato dallo Spirito Santo, quando disse che Emanuele sarebbe nato da una vergine. «Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele», Isaia 7,14. In Gesù, Dio si è fatto uomo, GV 1.1.4. Dio è diventato visibile e conoscibile 1 GV 1.1 e raggiungibile mediante la fede, GV 6.69. Dio ci ha mandato il Signore Gesù, che egli ha prestabilito come propiziazione mediante il suo sangue attraverso la fede, Ro 3.25. Infatti abbiamo una fede che salva solo se crediamo in Gesù quale nostro unico e personale Salvatore. Egli è andato per noi alla croce, ha espiato il nostro peccato, ci ha comprato a caro prezzo e perciò dobbiamo rivolgerci a Lui per essere salvati. Mediante Gesù soltanto abbiamo accesso al Padre, GQ 14.6. In Gesù Dio ha preso su di sé tutto il nostro peccato. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché diventassimo giustizia di Dio in Lui. Il giudizio di Dio per i peccatori si è così riversato sul Figlio di Dio. Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati, Ga 1.4. Gesù è il Figlio di Dio ed è della stessa natura del Padre, GV 14.9. Farsi deboli con i deboli. Pur sempre annunciatori della verità biblica, possiamo riflettere però che Gesù ci ha mandati alle persone per annunciare in primo luogo che Lui è Dio, oppure iniziando dal proclamare il perdono dei peccati per mezzo di Lui soltanto, Luca 24, 46-47. Tuttavia, se i vostri amici musulmani vi chiedessero se credete che Gesù è Dio, rispondete francamente che egli è Dio, precisando che non credete in Maria quale dea. Dalla parola di Dio possiamo loro enunciare le verità a sostegno della sua deità. In Luca 8:24b-25b troviamo come Gesù confermò la sua potenza descritta nel Salmo 89, 9 ancora. A conferma della sua deità, egli è il Dio. Sempre al Salmo 89, 11 naturalmente il soggetto è Dio, troviamo questa potenza creatrice leggendo Giovanni 1:1-3. Gesù è Dio. Sarà opportuno ricordare ai vostri amici musulmani che lo stesso Maometto comandò di credere nei salmi di Davide. A volte sarà meno difficile il nostro compito raffrontando i salmi con i Vangeli. Al giorno d'oggi, tuttavia, fra alcuni musulmani si è fatta strada di rifiutare di credere anche nei salmi. Questa tendenza ci fa comprendere che i nostri amici mancano di coerenza con la loro stessa religione. Perché nel Corano sanno di trovarvi scritto che i musulmani che non credono ai dogmi di Maometto non potranno entrare in paradiso. Al di là di questo, scopriamo che i musulmani hanno bisogno di amore e prudenza dai cristiani, che noi cominciamo a pregare più intensamente per loro affinché il Dio della Bibbia illumini il loro cuore spirituale, che doni loro la fede e il coraggio per divenire credenti veri, secondo come ha predisposto il Dio della Bibbia. L'Eterno Dio stesso ama farsi chiamare dal suo popolo. Io sono colui che sono, Giovanni 8:58. E si definisce Io sono il primo e l'ultimo, Apocalisse 1:18. Come vediamo in questi versi, Dio afferma essere lo stesso essere incarnato nella persona di Cristo. Mentre Cristo afferma essere Dio Yahweh, l'Io sono. Suggerisco di mostrare il verso dove è palese che Gesù Cristo è stato inviato per salvare tutti coloro che crederanno in Lui. Apocalisse 5:9, Isaia 48, nuovamente Dio si proclama come Gesù, il Redentore. Cari lettori, ferventi per la divulgazione del Vangelo, l'esposizione teologica dovrebbe essere intessuta, con pochi versetti biblici ma efficaci. Naturalmente, se per ispirazione divina avete esempi migliori e più concisi ed efficaci da questo esempio di cui sopra, e il Signore vi guida diversamente, gloria a Dio! Siete usati in modo meraviglioso dal Signore. Ciò che contava trasmettervi con questi esempi, che i musulmani siano guidati alla comprensione e alla conoscenza di Gesù Cristo, quale Yahweh, Yahweh e Salvatore. Affermazioni esplicite sulla sua divinità seguono altri versetti a sostegno della divinità di Cristo. In questi versi Cristo afferma riguardo a se stesso, con frasi dirette, che non danno adito a dubbi della sua divinità. I musulmani che non sono in buona fede troveranno comunque qualcosa da dire su queste affermazioni pronunciate da Gesù. Io ed il Padre siamo uno, Giovanni 10:5. Io sono G.V. 8:58. Gesù gli disse, «Da tanto tempo sono con voi e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me? Ha veduto il Padre. Come mai dici tu? Mostraci il Padre». Giovanni 14:9. Gesù dispone che lui debba ricevere lo stesso onore del Padre, G.V. 5:23-24. Conoscere me è conoscere il Padre, G.V. 8:19. Credete in Dio e crediate anche in me, G.V. 14:1. Chi ha visto me ha visto il Padre, G.V. 14:9. Io vi dico, Matteo 5:20-22-26-28 e numerose altre volte. I profeti non osavano parlare nel proprio nome, ma iniziavano gli oracoli sempre nel nome dell'Eterno. Così dice il Signore. Come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, che bestemmia, perché ho detto? Son figliuolo di Dio? Giovanni 10:36. Eppure anche i demoni riconoscevano la vera identità di Gesù quale figlio di Dio. E dato un gran grido, disse, «Che vile è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi». Marco 5:7. AFFRMAZIONI, implicite sulla sua DIVNITA, LA, preesistenza di Cristo. Ma da te, o Betlemme, frata piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, punto A, origine dai giorni eterni. Michea 5, 1. Egli è sia il Padre sia il Dio Onnipotente, Isaia 7, 14, 9, 6 a 7. Dal principio con Dio. Giovanni 1, 1 a 3, Corano 4, 171. Egli si fece uomo. Giovanni 1 e 14. Il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Filippesi 2, 6 a 7. COCRE, Antico Testamento, ORE. La Bibbia insegna che Gesù controllava gli elementi naturali, Marco 4.3, 7, 41. Il Corano è molto preciso al riguardo. Maometto non poteva operare. Miracoli? Gesù è il co-creatore e regna sull'universo, Colossesi 1, 15, 20, Ebrei 1, 3. A volte è necessario gettare dei ponti con il vostro interlocutore musulmano, parlando di Gesù dal punto di vista del Corano, almeno inizialmente come punto di contatto. Infatti, proprio lo stesso Corano attribuisce a Gesù certe caratteristiche come non lo fa per nessun altro profeta, nemmeno per Maometto. Scoprire queste verità farà sgorgare nel vostro amico la curiosità di volerne sapere di più sulla persona di Gesù. Anche se il Gesù del Corano non è esattamente lo stesso Gesù descritto nei Vangeli, Gesù occupa una posizione preminente. In un certo senso traspare dal Corano che Gesù è più che un profeta, poli. Vi rimando al capitolo Gesù è un profeta come tutti gli altri di questo volume. Il Corano, LA Numerologia e LA Kabbalah. Vi sono dottori islamici che trasmettono molte menzogne alla gran parte della comunità islamica. Quest'ultima ignara della verità e, in men che non si dica di consuetudine, la menzogna ripetuta. Un numero sufficiente di volte è vista come verità. Fra le menzogne più di successo è quella che incensa il Corano come libro ispirato per contenere il miracolo numerico fra i suoi capitoli. In sintesi viene detto che il Corano è un libro strutturato matematicamente e pertanto può solo essere di origine divina. Perché? Ci viene detto che il Corano, oltre alle parole, contiene in queste un insieme di codici matematici che, applicati al Corano, ci permettono di percepire che si tratta della rivelazione divina per eccellenza all'umanità. Attraverso questa scienza, i dottori musulmani sostengono che ci vengono svelate profezie ad oggi adempiute, invenzioni in parte realizzate, eccetera. Solo sul testo del Corano in arabo, questa trovata non è nuova, come vedremo. La scoperta del codice matematico del Corano iniziò nel 1974 e diede inizio ad una nuova era in cui fu esaminata l'autenticità di ogni elemento del Corano. Pensarono bene di stabilire un criterio a proprio uso e consumo per eliminare quelle parole che non appaiono nella quantità desiderate. In verità, questa scienza applicata al Corano è solo arrivata ultima e lascia perplessi. I dottori musulmani, volendo impressionare e catturare l'attenzione sull'ispirazione del Corano ricorrendo a questo stratagemma, lo hanno ulteriormente indebolito. Ad esempio, è usata dai dottori della legge per molte parole per farle entrare nello stampo del miracolo del multiplo 19. Una porta sfonda Antico Testamento A. Chiunque con il pallino della matematica può riprodurre gli stessi miracoli con qualsiasi libro e spacciarlo per libro divinamente ispirato. Chiunque che ama fare i cruciverba e ama i quiz può formulare un miracolo matematico. E è possibile trovare miracoli come questo in qualunque testo. Dal momento che sei tu a stabilire il criterio da scegliere e selezioni accuratamente quelle parole da contare e come debba essere interpretato il miracolo, puoi rendere miracoloso qualunque testo. 19. Il numero magico. I pseudo-intellettuali islamici affermano che il Corano contiene un numero miracoloso che è il 19. Ad esempio, per mostrare che la parola Allah sia divisibile per il magico numero 19. Hanno dovuto scartare la parola Allahumma o Dio dal conteggio, mentre altre occorrenze e variazioni di Allah vengono mantenute. Tutti i bismillah nel nome di Dio iniziali sono esclusi, tranne il primo e il verso 9. 128-129 è stato completamente scartato. Comunque, varie religioni affermano che i loro rispettivi testi sacri contengono miracoli matematici. Ma anche se fosse vero, lo stile e il contenuto, come nel nostro caso in esame, non convalida automaticamente il messaggio insito, come divinamente ispirato, specie poi se nega l'avvenuto sacrificio espiatorio di Cristo per l'umanità, givite. E se Cristo non è risuscitato, vana dunque la nostra predicazione, vana pure la vostra fede. I Corinzi 15 e 14. Un esempio per assurdo. Potremmo provare lo stesso espediente con il libro di Dante Alighieri, La Divina Commedia. Sapevate a questo proposito che Dante ha mandato Maometto all'inferno? Un passo tratto dalla Divina Commedia, Inferno, canto 28, verso 30, Dante lo descrive sofferente all'inferno. Pensate un po', un giorno uno si sveglia, inizia con la Divina Commedia, fissa un criterio per i numeri di lettere nei capitoli, numero delle volte che una certa parola si ripete e inventa un multiplo, fa diventare il tutto un miracolo matematico, ma ciò non farà diventare il libro, la Divina Commedia, ispirato da Dio. Voglio immaginare quanta ilarità produrrebbe nel mondo una panzanata tale. Certi bravi islamici, eccellenti matematici, nel 1974 hanno proprio fatto questo col Corano, divulgando il miracolo matematico del Corano, proprio per rafforzare l'affermazione che Maometto è l'inviato di Allah. È sconcertante fare queste dichiarazioni, ma sono basate su prove. Il miracolo numerico, originale, il gioco del lotto. A livello popolare è diffuso l'uso di una forma molto più folcloristica di Kabbalah, la famosa smorfia napoletana. Essa viene utilizzata per indovinare al gioco del lotto mediante l'interpretazione di sogni e di situazioni particolari della vita quotidiana. Altre tradizioni religiose. Nel mondo ci sono milioni di poesie con un certo numero fissato di lettere ed anche altri testi sacri di altre religioni, ma quei popoli si guardano bene dal dire che i miracoli matematici dimostrano essere poesie divinamente ispirate. Il Salmo 117 è il capitolo più breve della Bibbia. 2. Il Salmo 118 si trova situato proprio nel mezzo della Bibbia. 3. Salmo 119 è il capitolo più lungo della Bibbia. 4. La Bibbia ha 594 capitoli prima del Salmo 118 e 594 capitoli dopo il Salmo 118. 5. Se sommi tutti i capitoli, eccetto il Salmo 118, ricaviamo un totale di 1188 capitoli. 6. 1188, o il Salmo 118 verso 8, si trova proprio nel centro della Bibbia. E se andiamo ora a scoprire cose, dice il versetto, salteremo dalla gioia, in quanto edificante. E, meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. Salmo 118, 8. Dovremmo ora cercare di convincere i musulmani partendo da questa numerologia, per convincere che la Bibbia è parola di Dio? Concludo qui, anche se non mi sono troppo impegnato onde non cadere in inutili sofismi. Traete le conclusioni. Divina Commedia, lotto. Purtroppo, religiosi e mistici non sono nuovi a queste pratiche. I musulmani, applicando questa scienza al Corano, sono arrivati ultimi ancora una volta. Al tempo della deportazione del popolo giudeo nell'antica Babilonia, i capi religiosi cominciarono a formulare delle nuove dottrine, il Talmud, che, in teoria, avrebbero dovuto spiegare i comandamenti che Dio aveva dato nella Bibbia. In realtà, quelle dottrine erano in grave contraddizione con gli insegnamenti di Dio. Diversi si volsero alla superstizione, inducendo molti allo sviamento e attirandosi il suo giudizio. Anziché seguire l'invito di Cristo e ritornare sui sentieri antichi, molti popoli da sempre hanno cercato di bypassare la vera spiritualità con artifici umani pseudo-spirituali. Questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Isaia 29, 13.